Dai, dai, andiamo. Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano. .800 24 00 24, segnatevi il numero in diretta fino alle 20. Se volete intervenire da adesso vi prenotate 800 24 00 24, e poi 349 238 6666 per i vostri messaggi. Tutti convocati weekend in versione speciale, per una domenica speciale anche un po' magica fin qui, perché ci ha regalato il podio meraviglioso di Silverstone con Rossi, Petrucci e Dovizioso, tre italiani ai primi tre posti, un podio che promette meraviglie per l'autunno quando poi si deciderà il mondiale. Poi c'è il grande appuntamento tra poco meno di un'ora di Roma-Juventus, che è un po' un antipasto scudetto, forse di sicuro è una grande sfida che ci regalerà anche qualche verdetto già sullo stato di salute di quelle che sono, dovrebbero essere, le due grandi del nostro campionato. Partita che noi vivremo insieme fino alle 20, quindi in diretta fino all'ultimo minuto, anche insieme a voi. Se volete intervenire ci saranno tanti ospiti, tanti opinionisti, grandi firme del giornalismo. Ci sarà la diretta dall'Olimpico con Dario Ricci, che saluto. Ciao Dario. Ciao Giovanni, buona domenica a tutti dall'Olimpico. 800 24 00 24, quindi se volete intervenire da adesso vi prenotate e potete intervenire. Dario, cominciamo a raccontare un po' l'atmosfera dell'Olimpico. Partiamo da due dati, anzi tre fondamentali. Fa caldissimo, temperatura ben oltre i 30 gradi, e quindi vedremo come questo dato atmosferico influirà sullo spettacolo in campo. Altro elemento da sottolineare: finora nessun problema dal punto di vista dell'ordine pubblico, ricordiamolo, 700 agenti schierati, altrettanti steward con torolli piuttosto puntuali all'ingresso, 1600 gli juventini previsti sugli spalti, in gran parte residenti a Roma, gli altri arrivati questa mattina alla stazione Tiburtina, non si registrano finora incidenti. E poi il primo importante dato tecnico, le formazioni, perché ci sono delle variazioni, ecco, allora, significative. Andiamo con le formazioni, che credo siano ufficiali, giusto? Guarda, non abbiamo ancora il foglio fresco di fotocopiatrice in mano, ma al 99% dovrebbero essere le seguenti: la Roma con Szczęsny in porta, in difesa Florenzi, Manolas, Castan e l'esordio di Digne, a centrocampo Nainggolan, De Rossi, Piani, c'è poi il tridente con Salah e Iago Falche al supporto di Dzeko, quindi è in panchina il capitano Francesco Totti. Significative anche le variazioni affrontate in queste ultime ore da Massimiliano Allegri, perché per quanto riguarda la Juventus, Buffon in porta, difesa 3 con Chiellini e Bonucci, e Caceres che prende posto, il posto di Barzagli a centrocampo, l'Xtyler sulla destra, Sturaro a far da scudo a Padoin, siato in regia, e a Pogba, quindi Sturaro preferito a Pepe, e va sulla sinistra e Mandzukic e Dybala, coppia d'attacco. Quindi non è cambiato poco in queste ultime ore, Giovanni. Ecco, ti do una correzione, ma proprio perché è arrivata in questo momento. La Roma ha appena pubblicato la formazione sul suo profilo Twitter. C'è in realtà un ulteriore cambio, perché non gioca Castan. Arretra De Rossi, bene, sulla linea dei difensori, e in mezzo ai tre di centrocampo c'è Keita. Quindi questa la formazione della Roma, ma è davvero roba di pochi secondi fa. Hai qualcuno con te nella sala stampa dell'Olimpico? Ripeto, vivremo tutta la partita insieme con gli inviati, con la diretta, con il racconto di quello che succede, e anche se volete da casa con i vostri interventi. 800 24 00 24 se vi volete prenotare. Dario. Sì, sono con Mirko Graziano, inviato della Gazzetta dello Sport, esperto di cose juventine. Beh, Mirko, benvenuto a tutti i convocati di weekend, e subito partiamo direi dalla notizia, da quella che è la notizia fino al calcio d'inizio, cioè il sogno sfumato dell'arrivo di Draxler a Torino. Direi notizia che è maturata in queste ultime 36 ore, a questo punto non sorprende, però l'epilogo, sì, insomma, Draxler era il giocatore voluto da Allegri, su cui Allegri puntava tantissimo, adesso una Juventus in pieno lavoro in corso, a meno di 24 ore, a poco più di 24 ore dalla fine del calciomercato. Sì, è stata una beffa di fatto questa trattativa, nel senso che la Juve ieri mattina aveva chiuso tutto con il club, aveva in mano l'accordo con il ragazzo già da un mesetto, sembrava tutto fatto, poi il presidente ha preso sorprendentemente tempo, in realtà poi abbiamo capito anche il perché, alla porta aveva bussato il Wolfsburg con un assegno mostruoso sia per il cartellino sia per il ragazzo, e ieri sera tardissimo una velina uscita proprio dal ritiro della Juventus ci aveva fatto capire che l'affare stava saltando definitivamente. Nel frattempo la Juventus si è cautelata a livello numerico, portando praticamente a casa Lemina, un giocatore francese molto bravo, un classe 93, ha fatto parte del gruppo dei campioni del mondo Under 20 della Francia, ma non basta, perché a centrocampo serve qualità e la Juve sta cercando questo in queste ore. Non è semplicissimo, è probabile che stiano sondando molte piste, stiamo cercando di capire anche i vari big scontenti in giro per l'Europa, mentre in Italia i nomi che si fanno al momento sono quelli di Franco Vázquez del Palermo, difficilissimo considerando ciò che ha detto Zamparini di tutti i tempi, ed Hernanes dell'Inter. Sì, Mirko, beffa, ma io credo si possa dire tranquillamente anche una gestione probabilmente non ottimale da parte della Juventus, cioè se tu per due mesi fai offerte al ribasso con formule diverse, fai trapelare che non ti fidi pienamente del recupero del giocatore, poi a due giorni dalla fine arrivi a quello che ti era stato chiesto, il rischio che tu lo perda il giocatore c'è, anche questo va detto. Sì, una lettura, anche questa, sono d'accordo con te. C'è d'altro canto dire che i dubbi fisici sul ragazzo sono reali, e non è che Draxler abbia brillato in maniera particolare all'inizio di questa stagione, ha fatto sì un gol, ma io l'ho visto giocare contro il Wolfsburg, una partita poco più mediocre, quindi qualche dubbio la Juve ce l'aveva, non voleva andare oltre un certo budget, era arrivata a fare prima 22 bonus, si era spinta fino a 26 bonus, posso garantirti, tra virgolette, violentandosi, perché non sono convinti tuttora che il ragazzo sia al 100%, e diciamo che gran parte della frenata bianconera è dovuta anche a ciò che poi era successo a Chedira. Forse se non fosse successo niente a Chedira la Juventus avrebbe preso un rischio in più, così aveva il timore di fare un doppio flop, chiamiamolo così, a livello fisico con Chedira e con Draxler. Poi hai ragione tu, quando tentenni nel frattempo il City è andato a sparare una cifra, io francamente la definisco, sì, poi si creano condizioni di mercato, esatto, che magari tu non puoi prevedere, esatto, pagare De Bruyne quanto vale Messi, se De Bruyne vale 80 milioni Messi probabilmente vale 800 milioni Messi non ha prezzo, se, esatto, non ha prezzo a prescindere dalla quotazione di De Bruyne, credo che esatto. Anche Dario sia assolutamente d'accordo, non sono pesi comparabili, diciamo, no, così. Anche se prima o poi qualcuno che lo compra lo troviamo, secondo me Messi, poi un giorno Mirko ci racconteremo tutti insieme che cosa è successo in questi tre mesi alla Juventus, compreso, io credo ci sia sotto anche forse una valutazione differente sul profilo del centrocampista da prendere, perché se un allenatore ti chiede il numero 10 per tre mesi e tu arrivi a 18 ore e ancora stai ragionando. La lettura è abbastanza semplice, nel senso che la Juventus non pensava di vendere Vidal, è un'occasione che è arrivata strada facendo, quindi la Juventus se l'era presa comoda, perché con Vidal a centrocampo potevano permettersi anche di far girare il trequartista interno fino al punto di trovare poi la grande occasione, nel senso che potevano cavarsela con lo stesso Vidal, con Pereira, perché il centrocampo comunque era molto forte con il cileno. Non si attendevano quell'offerta del Bayern Monaco. Posso far altro dirti di più, scherzando fuori microfono con Marotta, ho dovuto dire, guarda, se io avessi sparato 50 milioni probabilmente il Bayern l'avrebbe preso, e in quel momento lì il Bayern si è fatto avanti in maniera sorprendente, ha offerto 40 milioni per un giocatore che obiettivamente a Torino era diventato difficilmente gestibile. È stato un grandissimo affare economico che andava fatto assolutamente, la Juventus ha fatto benissimo a cogliere la palla al balzo, il problema è che però ha di fatto modificato molti dei piani di mercato, e quindi si è venuto a creare qualche scompenso proprio nella ricerca del trequartista. Sì, ha incasinato un po'. Dario, per chiudere questo primo collegamento, abbiamo detto Cáceres al posto di Barzagli e soprattutto Sturaro al posto di Pereira. Se hai la sensazione, Dario, che questo significhi, non so, qualche ci lasci capire qualcosa dell'atteggiamento oggi della Juve? Beh, una Juve che sceglie un centrocampo ancora più muscolare, quindi probabilmente vuole Allegri andare a interferire in quel giro palla romanista che nel circo di centrocampo dovrebbe aver acquisito qualità con l'inserimento di Keita. Lo ricordiamo, nell'ottobre scorso che partita fece Keita a Torino in quell'infocato Juventus-Roma che poi fu decisivo per la corsa all'ultimo campionato. È una Roma che si assomiglia parecchio a quella Roma che insomma fece una partita di altissimo livello. In difesa probabilmente l'inserimento di Caceres, e chiedo conferma anche a Mirko, è dovuto al fatto che probabilmente le condizioni fisiche di Barzagli ancora una volta non davano garanzia al 100%. Credo di sì, a meno che Allegri non abbia preferito schierare il centrale esterno più agile, considerando anche il tridente della Roma, mentre è sicuramente scelta tecnica quella di Sturaro. D'altronde la Juventus di certo oggi non può permettersi di perdere, meglio pareggiare piuttosto, meglio non correre rischi, nel senso che andare alla sosta con 0 punti in 2 partite potrebbe creare qualche problemino a livello ambientale. Non è certo il massimo lavorare in queste condizioni, anche perché durante la sosta ad Allegri saranno solo 4 giocatori della rosa titolare, dunque neanche potrebbe poi sistemare troppo le cose. Aprirebbe a tante domande. Vi devo fermare perché c'è il traffico. Ringrazio Mirko Graziano. Ciao Mirko, grazie. Ciao, grazie a voi. Ciao. Dario, ovviamente torniamo da te fra qualche minuto, perché c'è anche da analizzare qualche scelta della Roma. L'abbiamo sentita prima la formazione, il titolo è Totti in panchina, sommario, in realtà ce ne sono tante di novità. 800 24 00 24, torniamo subito. Siamo venuti via da Shanghai dicendo, leggendo che la Juventus era ripartita cannibale, quest'anno vinceva tutto, ora nella partita siamo andati tutti i brocchi. No, tutti convocati. Convocati. Allora, qualche pronostico arriva, 349-238-6666, se volete scrivere, se dovessero perdere i giallorossi, chiede un amico, se i tifosi chiederanno la panchina di Garcia. No, io non penso, ma così come Mirko Graziano, collega della Gazzetta dello Sport, ragionava sulla necessità della Juventus di non perdere, anche Garcia ha l'assoluta necessità di non uscire sconfitto da questo incrocio con la Juventus. Franco da Roma, partita da tripla secca, forse leggero vantaggio alla Roma che gioca in casa. Poi un altro amico, Roma in vantaggio di un'unghia. Poi scrive una tifosa milanista, spero che Allegri distrugga la Juve come ha fatto col Milan. In realtà mi sembra che Allegri in questo mercato sia più vittima che carnefice. 800 24 00 24, parliamo del grande pomeriggio degli italiani. Rossi, la moto gli dà uno scossone, sono 2 buffetti, una carezzina. Rossi c'è e vince Petrucci. Davanti a Petrucci è delizioso. Storica tripletta italiana, Rossi, Petrucci e Dovizioso, bravi! Fortunatamente è iniziato a piovere e poi da lì mi è sembrato di dover andare tipo in Austria da Tavuglia perché è stata lunghissima, però mi trovavo bene, la mia moto era fantastica. Speravo nella pioggia che mischiasse le carte, però cavolo, l'ha mischiate per bene. ho preso il jolly e partire dalla 18ª posizione non era per niente facile, però alla fine è stata una figata. Sono davvero contento perché la gara è stata molto difficile, tante cadute, e partivamo in quarta fila, ma se andate a guardare la mia partenza ormai centro il muro perché mi è partita di traverso nello stacco e forse ero quasi ultimo nella prima curva, sono riuscito a recuperare. Desidero ringraziare molto il presidente Squinzi per l'invito così cortese che mi ha rivolto a tutti i convocati fine settimana. Le nostre relazioni hanno un tasso di univocità, di condivisione e amicizia e contribuisce a rafforzare la spinta verso una fattiva collaborazione. Sì, Presidente, in tempi però, di crisi. Se vuole collaborare, ha visto cosa hanno fatto gli italiani. Desidero complimentarmi personalmente con il grande Valentino Rossi e con la Ferrari. No, non c'entra niente la Ferrari, Valentino Rossi, questo è il nostro Andro, qui con noi, anche lui per seguire con i suoi 1000 personaggi Roma-Juventus. Facciamo parlare di motociclismo qualcuno che se ne intende, Roberto Ungaro. Ciao, un saluto a tutti. Ciao, grazie. Roberto. Ciao. Noi ce ne intendiamo, il giusto per dire che Valentino Rossi corre sulla Yamaha e non sulla Ferrari, e per dire che oggi ci siamo gonfiati d'orgoglio. Sì, c'è da essere fieri, immenso Vale, immenso Italia. Le parole, bisogna partire dalla sua parola, che l'ha messa fortunatamente senza piovere. Infatti, se non fosse stato così, avremmo visto un'altra gara, perché Vale sull'asciutto non aveva il passo di Lorenzo e di Marquez, avrebbe dovuto sudarsela molto di più. Però, come sempre accade, la fortuna sta dalla parte dei vincenti, dei campioni. E comunque oggi sulla moto c'era lui, a condurre le danze c'è stato lui, a gestire la gara, la pressione di Marquez c'era lui, a contenere la rimonta degli altri due italiani c'era lui, e a vincere è lui. E adesso con 12 punti sul mondiale può iniziare a pensare, è ancora presto, però arrivare a Misano vantaggio di 12 è tutta un'altra storia. Sì, soprattutto è tutta un'altra storia, perché Valentino Rossi ci aveva raccontato chiaramente che questo trittico di agosto, quello che si è chiuso oggi, era quello ostile, quello che lo preoccupava. Poi da lì si sarebbe aperto un altro mondiale, e lui entra nell'altro mondiale, quello che dura 6 gare, un mini mondiale. Insomma, 12 punti non sono tantissimi, ma cominciano a essere qualcosa. Se poi il tuo avversario Valentino Rossi per Lorenzo è uno che è sempre andato sul podio, quasi assolutamente sempre. Sì, non ha mai sbagliato, ma alla fine è il più forte in assoluto di testa, di condizione, è stato sempre lì. Se prendiamo il giro secco è impossibile stare dietro a Marquez e alla Honda. Se stiamo a guardare Lorenzo quando è in palla, quando è giusto, non c'è storia per nessuno. Però oggi di nuovo problemi con la visiera, e questo non deve accadere a un campione quale lui. E comunque sinceramente non pensavo a un headbutt del genere di Lorenzo, alti e bassi. Ha paura della pioggia. Ricordiamoci quello che fece anche l'anno scorso, dove è stato Assen, dove si ruppe una clavicola, poi tornò a correre, fu operato, vi ricordate, una cosa pazzesca. Ma non è paura della pioggia, ha paura secondo me della pressione di tutto il sistema, del campionato, della gara, dei punti, della rivalità con Valentino. Guardando questa gestione, anche i tweet che si mandano, c'è una battaglia psicologica strepitosa fra i due. Ecco, e in questa battaglia Valentino è nettamente superiore, viene fuori la sua esperienza, viene fuori la sua età, viene fuori la sua maturazione. Per lo spettacolo vederli più vicini ovviamente è meglio per tutti noi, però Valentino con 12 punti, Marquez è fuori dai giochi, ok. Sì, Marquez adesso 77 punti, con oggi ha definitivamente salutato la compagnia. Si sapeva che la sua era un'impresa ai limiti dell'impossibile, non poteva più permettersi neanche un errore. L'errore è arrivato suo o della moto, questo poi lo scopriremo, certo. E quindi siccome però l'anno scorso ne ha vinte 10 di fila, ci puoi pensare che possa magari recuperare mettendo insieme una serie di vittorie, però ormai basta. Il gioco è Yamaha, vincente sicuramente Yamaha, lo si può dire quest'anno. Dei due staremo a vedere, ma le piste possono dare favore a Valentino da qui alla fine della stagione, e quindi secondo me è presto per dire chi vincerà, però Valentino può veramente pensarci a questo decimo titolo. Un plauso se lo merita Danilo Petrucci, perché è il primo suo podio, secondo posto con una Ducati clienti dell'anno scorso davanti alla prima guida. C'è stato un momento che ci ha anche pensato di poter vincere. Sì, ma si è illuso. Allora, di testa, quando ha superato Dovizioso, lui lì si è convinto che poteva anche superare Valentino, perché immaginatevi, ha appena firmato il contratto con Ducati, che lo vuole, perché è un pilota che piace, l'anno prossimo avrà anche lui la moto giusta, diciamo la moto di Dovizioso quest'anno. Però quando è stato lì, io sinceramente pensavo adesso ci pensa a volte a superarlo, e invece non si è proprio fatto mezzo scrupolo, gli è andato dentro e l'ha passato. Da lì la sua testa si è sbloccata. Valentino, se gli fosse arrivato sotto, ci avrebbe provato. Secondo me è scritto, poi vabbè, sono amici, vanno insieme al ranch, sono due persone che si stimano, in questo senso non ci sono problemi, non c'è la rivalità tra Valentino e Lorenzo, ovvio, un'altra cosa, però ci ha fatto vedere che ha il potenziale per diventare un grande, questo è un bene per il ricambio italiano. L'acqua aiuta, perché partire diciottesimo, anche Dovizioso partiva indietrissimo, ma l'acqua è una livella, mette tutto su, cambia le carte in tavola, e devo dire che è una gara ricca di tensione dall'inizio alla fine, davvero bella, tanti colpi di scena, però è stato uno spettacolo, no? Di solito le gare bagnate non sono così. Grandissimo spettacolo, se ne riparla il 13 settembre, Gran Premio di San Marino, ma Valentino Rossi corre in casa vengono dei bei pensieri da fare. Valentino Rossi oggi vittoria numero 112, e leggevo una statistica tra la sua prima e l'ultima vittoria tra 500 e MotoGP, oltre 15 anni, questo per dire che il giorno che si ritirerà noi dovremo celebrare un campione leggendario. Nessuno come lui, non si possono fare paragoni col passato, i soliti paragoni con Agostino, perché lo dico, Agostino, lo dico sempre, le epoche sono diverse e non ci può stare il paragone, ma come vale nessuno mai, secondo me non c'è storia. Avete sentito alla fine della gara, non ancora, quando si sentivano gli spalti, e eravamo a Silverstone, si sentiva il tifo per lui, l'ultimo giro, il boato nel sottofondo, nonostante i rumori dei motori, questo lo può fare solo Valentino, e lì fa la differenza. Secondo me Misano è un appuntamento da non perdere, bisogna esserci e viverlo, perché lo ricorderemo e tornerà. Ma che vinca o che non vinca, ma lui con 12 punti lanciato verso il decimo titolo è un appuntamento che solo per questo, per l'atmosfera che si vivrà, grazie sempre a Valentino. Sì, aveva ragione lui a insistere anche l'anno scorso quando arrivava a quarto di tre e tutti giustamente pensavano, io faccio pubblica ammenda, tutti dicevamo ma così può anche ritirarsi, perché è ovvio che se tu arrivi quattro di tre ma non la vedi mai sei arrivato in fondo, e invece aveva ragione lui, ha insistito per essere qui dove è oggi, sei gare alla fine a giocarsi il mondiale. Perché si diverte ancora, con un nome così, se ti chiami Valentino sei obbligato a vincere, e quindi questo non è facile per lui. Però si è messo in discussione, ha cambiato lo stile di guida, ha molto studiato gli altri e alla fine ha avuto e alla fine ha dimostrato che ha qualcosa in più, e del resto lo sapevamo. Grazie Roberto Ungaro, grazie Roberto. 800 24 00 24. Desidero, chiedo scusa a Capuano, desidero ringraziare il presidente Squinzi e precisare che Valentino Rossi non è pilota della Ferrari, ma che importa, viva l'Italia. Questo è già importante. Torniamo subito 800 24 00 24, torniamo anche all'Olimpico, Quando ho vinto l'ultima gara sul bagnato? Ci avete Capo, guardato? Quanto è passato? 10 anni? Ma non lo so. 2005 è l'ultima, dici tu? Boh, non lo so, non mi ricordo. Allora, seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Che dire, arieccici. Convocati. Sono arrivato Mandzukic, Zaza, Dybala, che dirà Alessandro, e mi dimentico forse alcuni giocatori ancora. È la squadra che ha vinto i quattro ultimi campionati, è una squadra di alto livello. Allora, subito da Dario Ricci all'Olimpico, c'è una notizia importante tra l'altro di mercato che riguarda la Roma. Dario. Sì, la notizia l'ha appena data Sabatini ed è quella che Iturbe non va al Genoa. Sabatini che ha detto chiedo scusa, l'ha detto ai microfoni di Premium, chiedo scusa al Genoa per come è andata la trattativa, Iturbe resterà da noi, quindi salta il trasferimento di Iturbe al Genoa, notizia che interessa i tifosi del Genoa e i tifosi della Roma. Prego Dario, meno 26 minuti. Beh, la commenterei subito con il nostro secondo ospite Stefano Carina del Messaggero. Beh, notizia di pochi minuti fa, Stefano Sabatini che ha detto che di fatto è saltato il passaggio di Iturbe al Genoa, quindi Iturbe rimane in giallorosso, questo almeno per ora, perché poi il mercato, lo ricordiamo, chiude domani alle 23, ma è una notizia per certi aspetta aspetti. Dario, aspetta che c'è Marotta, microfoni di Premium, così ve lo faccio sentire. Quindi tutto a posto, cioè praticamente vi aspettavate questa risposta, l'avete già metabolizzata. Si parla di Draxler. Ma in realtà sì, ma era da tempo che sapevamo che era una trattativa, tra l'altro mai avviata concretamente, la dimostrazione che non ci siamo mai incontrati una volta con lo Schalke 04, proprio perché sapevamo che non c'erano tanti margini trattative, e ribadisco, è stata un po' enfatizzata a livello mediatico, ecco, anche ieri si parlava di conclusione dell'affare, non so su quale basi, visto che noi non abbiamo parlato assolutamente nella giornata di ieri con nessun rappresentante della società tedesca. Studio? Sì, vabbè, questa era Marotta, vabbè. Su Draxler, chiedo scusa a Stefano Carina e Dario Ricci, abbiamo appreso che la Juve non ha mai trattato Draxler. Prego Stefano. Anche questa è la notizia, ecco Stefano, ci faceva sentire Giovanni le parole di Marotta, che ha detto che non abbiamo mai trattato Draxler. Insomma, un minuto pieno di sorprese, no? Perché tra Draxler e la permanenza in giallo-rosso e degli Turbe, ti chiedo di commentare soprattutto questa seconda notizia, perché Iago Falche, i Turbe, insomma, sembra una Roma orientata ad un tridente e poi è molto simile a quello schierato oggi con Salah, Falche e Dzeko come punta centrale. È sicuramente una situazione molto sorprendente, anche perché hanno fatto arrivare i due procuratori del giocatore dall'Argentina. Era tutto praticamente fatto, è saltato. Io penso che allora vuol dire questo, che la Roma ha ceduto i Barbo alla Sampdoria, e mi tengo anche una possibilità che possa essere ceduto in extremis anche gli Aic, perché comunque nelle indicazioni di Garcia 8 attaccanti erano troppi, lui ne voleva 6, e quindi qualora Ibarbo dovesse andare, come credo, alla Sampdoria, ne mancherebbe sempre uno all'appello. E questo dovrebbe portare, scusa Dario, come conclusione del triangolo, ma ne parleremo tra una decina di minuti con Mario Giunta di Sky, che Eder dovrebbe andare all'Inter, così insomma ci sbilanciamo noi, tanto è sempre colpa dei giornalisti se poi vengono raccontate delle trattative che non vanno a buon fine. Posso chiedere qualcosa su Totti? Per tutta la settimana c'è stato questo tormentone Totti sì, Totti no. Alla fine Totti no, che lettura dobbiamo dare? Sicuramente questa seconda panchina consecutiva per Totti pesa, e pesa ancora di più, visto che la sfida è la sfida per eccellenza, quella con la Juventus. Ma ti chiedo Stefano Carino, spero. La permanenza di Turbe vuol dire anche che ci sarà comunque sempre meno spazio per il Titano, un messaggio in qualche modo lanciato anche a Totti, che comunque sarà la riserva di Dzeko, oppure anche Dzeko corre il rischio, malgrado il nome, malgrado i milioni spesi, di essere fagocitato dall'ombra del capitano? Ma questo non credo. Credo che Totti abbia un ruolo differente rispetto ai Turbe, perché comunque Totti, le idee di Garcia dovrebbe essere oramai diventato una sorta di trequartista, quindi lo vedremo un po' impiegato all'alta fini, e io non so quanto possa essere il ruolo di Totti, perché comunque in 20 anni di carriera il capitano giallorosso ha sempre dimostrato, sia per le qualità sia perché comunque aveva qualche anno di meno, che partire dall'inizio ha sempre dato un rendimento sicuramente migliore di quanto subentrava in corsa, anche se è accaduto molto poco, ripeto. Per quanto riguarda i Turbe, io comunque, conoscendo Sabatini, una piccola cosa me la tengo fino alle 23 di domani sera, perché a me sembra veramente molto molto sorprendente che si sia bloccato il trasferimento, anche perché da quello che so io l'amministratore delegato del Genoa rimane a Roma, in questi minuti è ancora a Roma. Allora io vi chiedo che non cosa si vuole perdere la partita, ovviamente non si vuole perdere la partita, però magari lo stadio se la poteva vedere anche a casa a Genoa. Il fatto che rimanga a Roma, io penso che c'è ancora una piccola finestrella aperta per quanto riguarda l'Argentina. Sì, questo è un mercato meraviglioso, ragazzi, che stiamo raccontando. Ce ne sono anche la storia di Mexes, quella di Ranocchia, capitano che rinnova, poi finisce sul mercato. Vi ringrazio Stefano Carina del Messaggero. Dario, ancora qualche minuto, torniamo da te. Parliamo comunque del Milan. Adriano verticalmente verso Bacca, occasione per Bacca, chiuso ancora, però Bacca ci crede e va dentro, è 1-0 Milan ed è un gol che accende San Siro, il primo in campionato per Bacca. E adesso adesso c'è un errore grave che apre lo spazio per l'1-1. Saponara non esulta, o meglio, ha un'esultanza, diciamo, composta. Eccolo qui l'altro corner, 5 saltatori, ecco Luis Adriano, 2-1 Milan, ci pensa Luis Adriano, la sblocca lui al minuto 69. No, ma è inutile dire che abbiamo fatto male, che io mi sento come di aver perso la partita, perché abbiamo vinto solo grazie ai due attaccanti, perché abbiamo fatto due gol senza un'occasione creata, perciò sicuramente non bene, ma non lo so, ho visto un po' troppa paura, non lo so, i vecchi incubi. Oggi davanti al nostro pubblico non meritavamo di vincere, come detto, la differenza l'hanno fatto loro due, rispetto di l'anno scorso non è cambiato nulla, ecco. Questo Mihajlovic assolutamente onesto, questa vittoria è una vittoria che vale 3 punti, ma mi è sembrato di perdere. Buonasera, grazie a tutti per avermi cortesemente invitato. No, non l'abbiamo invitata, prego però, dica. È stata una partita molto, molto buona, ho visto una squadra particolarmente coesa, molto positiva e con un'ottima organizzazione di gioco. No, la verità è andata diversamente, abbiamo sentito Mihajlovic. Guardi, ha detto che Capuano, non ha fatto male. Io apprezzo le sue capacità giornalistiche, ma io devo dire che mi sono piaciuti particolarmente Suso, Bertolacci e Nocerino, e credo siano stati molto coesi. No, credo non siano stati né coesi né abbiano giocato bene. Sai, lo chiediamo ad Arianna Ravelli, inviata del Corriere della Sera. Che Arianna, ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Suso non bene, Bertolacci non benissimo, in generale Milan male. Poi c'è da capire se è un problema di testa o un irrisolvibile errore di mercato, irrisolvibile a 18 ore dalla fine del mercato. Sì, Mihajlovic ha puntato tutto o molto sulla testa, su un problema di personalità, di paura, di fantasmi che tornano dagli anni scorsi. Sì, forse c'è anche un problema di uomini, insomma, a meno che appunto queste ore che restano alla fine del mercato qualcuno non arrivi, insomma, sappiamo tutti che il Milan non ha ancora mollato completamente su Pizze. Quanto è concreta questa ipotesi? Ci stanno lavorando e secondo me il Milan non può fermarsi, non può chiudere la campagna acquisti con un nome come Kuzka, con tutto il rispetto però, o Kuzka come forse è più corretto dire, però insomma, con tutto il rispetto penso che si rischi di rovinare anche una campagna che aveva visto acquistare buoni giocatori, penso ai due davanti, quindi insomma penso che qualcosa Milan debba fare, se sarà Vitzel, vedremo, se sarà Soriano o sarà un, anche se mi sembra che si sia un po' raffreddata quella pista. Sì, ho l'impressione che se fosse Soriano difficilmente si ricucirebbe il rapporto col pubblico. Segnalo 17.000 abbonamenti, questo è il dato a oggi del Milan. È un paradosso nell'anno in cui il Milan è tornato a spendere 80 milioni sul mercato, ed è un segnale secondo me profondamente negativo. Sì, è negativo perché evidentemente i tifosi stanno valutando che con questa squadra il salto di qualità non si farà, serve qualche buon risultato. È anche vero che insomma è anche un po' presto, cioè il Milano è vuota, ma lo si sta riempiendo in queste ore, però vabbè, serve un colpo ultimo secondo me buono di mercato, e poi insomma bisognerebbe vedere anche qualche cosa in termini di gioco e di risultati. Ieri il risultato è arrivato, ma insomma, come stavate dicendo voi, il resto no, è stata proprio una partita veramente negativa, e devo dire in questo l'analisi di Mihajlovic del post partita in questo è perfetta, cioè è una si sono rivisti esattamente le pecche dell'anno scorso, e è una partita che senza quei due davanti, senza Luis Adriano e Bacca, il Milan non avrebbe mai vinto, insomma, proprio due giocate di due grandi centravanti, questa è l'unica nota lieta di quello della serata di ieri. Mm, poi come ultimo tema che mettiamo lì alla riflessione anche a casa, se volete 800 24 00 24, c'è quale parte di colpe abbia Mihajlovic. Faccio l'accusa 2-1, aver sopravvalutato evidentemente alcuni risultati dell'estate, l'ho detto lui stesso ieri, pensavo di essere più a buon punto. Secondo, anche qualche errore di formazione a Firenze, Romagnoli e lì lanciati insieme 40 anni in due che non hanno retto. Ieri una squadra che ha fatto una campagna da 80 milioni, partono titolari Suso e Nocerino. Sì, io sono più sposo, diciamo, più il secondo capo d'accusa che non il primo, cioè quello della partita di ieri, anche perché mi sembra che Mihajlovic abbia reso pubblico il fatto che si sia accorto di aver sbagliato, visto che ha rinnegato le sue scelte, perché Nocerino nel secondo tempo non è entrato e Suso dopo qualche minuto è uscito tra i fischi. Queste sono le proprio due scelte, secondo me, sbagliate sotto tutti i profili, sbagliate sul piano tecnico, perché non riesco a credere che non sia, cioè, che tra tutti i centrocampisti del Milan in settimana non abbia visto nulla di meglio di quello che può dare Nocerino, e perché sono due giocatori che comunque la società ha messo sul mercato, quindi significa che c'è anche un po' di schizofrenia tra l'allenatore e la società. Vuol dire, ieri hanno giocato titolare e oggi ne stiamo parlando come possibili partenti entrambi. Quindi, allora l'allenatore reputa che due di cui la società si vuole liberare sono meglio degli altri, ma insomma mi sembra che ci sia un po' di confusione. Quindi sì, queste scelte anch'io le ho contestate. Va anche detto che poi si è quantomeno Mihajlovic sia corretto, insomma, e secondo me a queste due scelte si aggiunge o si è unito il fatto di aver tolto dalla formazione titolare Bonaventura, che mi sembra uno che invece uno dei pochi, insomma, in grado di giocare bene al calcio, di cambiare passo. Credo non sia un caso, papera di scorupsi a parte, che la partita comunque sia cambiata in meglio per il Milan quando è entrato Bonaventura. Grazie Arianna. Grazie a voi. Grazie ad Arianna Ravelli, Corriere della Sera. C'è il traffico 800 24 00 24. Poi vi facciamo sentire Gagliani ieri sera su tanti temi, mercato, Balotelli. Di che cazzo stiamo parlando? Tutti convocati. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta. Tutti convocati. Meno 12 minuti a Roma Juventus, tra pochissimo torniamo all'Olimpico. Presidente Berlusconi, le faccio sentire invece Gagliani ieri su Balotelli, primi giorni a Milanello. Gagliani su Balotelli. Balotelli si è presentato, era vero quello che ci diceva, che era allenato, perché mi disse Sinisa che è allenato, se no non avrebbe resistito a degli allenamenti così duri. È puntuale, è preciso, apre lui i cancelli di Milanello, per cui ho quasi l'idea di dargli le chiavi di Milanello per aprire a tutti gli altri. È il primo a arrivare, l'ultimo a andar via, quindi molto bene. Capito, chiedo, no? Scusa, mi perdoni Capuano, ma io devo smentire certe dichiarazioni, perché noi Balotelli non l'abbiamo mai preso. No, come no? Era anche in panchina. Capuano, senza cresta. Io non ho visto nessun Balotelli e nessuna cresta, per mia fortuna, e vi posso garantire, insomma, che sono in corso delle trattative. Penso che Ibrahimovic dovrebbe essere a momenti. No, ma non è Ibrahimovic, resta a Parigi, lo diciamo agli amici. Magari va alla Juve, chi lo sa, magari negli ultimi minuti questo lo vedremo. Mi fate sentire invece, ne parlavamo prima con Arianna Ravelli, la pista Witzel. Ma noi di grandi colpi quest'anno ne abbiamo regalati tanti, quindi Witzel so che avrebbe gradito la soluzione Milan, ma vedo francamente, non voglio dare illusioni ai nostri tifosi eccessivi, vedo francamente difficile arrivarci, anche se è una trattativa che c'è stata, che ha avuto un suo percorso, per cui non voglio dare illusioni. Allora, ancora Marotta, sempre a Premium, non dobbiamo trovare alcun sostituto di Vidal, non prevediamo cloni di questo o di quell'altro giocatore, pensiamo solo di prendere giocatori da Juventus. Questo è un anno di cambiamenti, siamo però molto soddisfatti del mercato che abbiamo fatto, mancano ancora uno o due giocatori per completare la rosa, ma non è detto che uno dei due sia un trequartista. Quindi torniamo ancora su questa differente valutazione. Coinvolgo Dario Ricci dall'Olimpico. Dario, no, non c'è, è caduta la linea. Torniamo su questa differente valutazione, evidentemente tra Marotta ed Allegri, sul profilo del giocatore, su Lemina dello Schalke 04, che scusate, del Marsiglia, che è vicinissimo alla Juventus. Marotta oggi ha risposto: sono abituato a fare i nomi quando questi sono sicuri, domani è l'ultimo giorno e lo affrontiamo con serenità. C'è l'Olimpico, Dario Ricci? No, c'è Mario Giunta. Mario, eccoci. Eccoci, Sky. Buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio. Continua a esserci questa differenza di vedute tra Marotta e Allegri. Ancora Marotta, pochi istanti fa, non è detto che uno dei due giocatori che mancano sia un trequartista. Sì, è vero, ed è probabile a questo punto che qualora non dovesse arrivare poi il trequartista, Allegri, tra virgolette, mi viene a utilizzare il termine tirassegna, di utilizzare il 4-3-3 in maniera definitiva e abbandonare l'idea di giocare con il trequartista. Quadrado, tra l'altro, sarebbe ideale, no? Per utilizzare questo sistema di gioco. Ho letto anche le altre parole da parte di Marotta. Sì, che non è mai stato trattato Draxler. Diciamo che non è una domenica facile per la Juventus da questo punto di vista, è anche comprensibile. È vero, perché insomma poi la trattativa per Draxler in realtà c'è stata, la Juventus lo ha cercato, ha provato ad esaudire le richieste dello Schalke, e molto probabilmente poi, come succede, no, nel calciomercato, come è normale che sia, se la società, in questo caso lo Schalke, che detiene il cartellino di Draxler, non è soddisfatta dell'offerta economica della Juve, lo vende ad un'altra squadra. Però io credo che insomma la trattativa, da quello che ci risulta, c'è stata. La Juventus a un certo punto era anche molto no, ma oggi c'è una dichiarazione ufficiale del direttore generale dello Schalke 04 che dice: l'ultima offerta della Juve non era pienamente soddisfacente, qualcuno si è presentato millantando di essere a nome della Juventus, oppure giustamente Marotta, una chiamata oppure un pranzo, faccia a faccia, c'è stato sicuramente. Sì, ma esiste Skype, noi possiamo suggerire mille modi a Marotta per fare una trattativa senza andare di persona a Gelsenkirchen, che non è che sia straordinario come luogo, no, come fisico. Mi dai solo un nome, il piano B, uno? Ma guarda, sicuramente Lemina per la Juventus, è chiaro che molto probabilmente non ha lo stesso appeal per i tifosi bianconeri di un Draxler, di un altro tipo di giocatore. E poi si deve tenere viva comunque la pista Witzel, anche se c'è il Milan, la suggestione Lamela, che da quanto sappiamo piace come profilo, ma non convince proprio al 100% allo staff tecnico della Juventus. Sono questi i piani B della Juventus. È chiaro che avere un piano B a 24 ore dalla a fine del mercato, ore, 18 a 18 ore, sì, esatto, è complicato, cioè un piano d'emergenza più che piano B per la Juventus a questo punto. Sì, abbiamo anche sentito Sabatini dire che i Turbe resta a Roma, il che potrebbe significare, sì, ci diceva Stefano Carina, che i Barbo va alla Samp. Chiudiamo il triangolo, cioè Eder va all'Inter. Allora, il triangolo potrebbe essere sicuramente questo, perché i Turbe, lo ha detto Sabatini, è vero, rimane anche lì una trattativa che ci ha divertito, ecco, per chi poi l'ha dovuta seguire. I Barbo Samp, siamo ai dettagli, e io credo che poi l'eventuale arrivo di Barbo alla Samp potrebbe liberare anche Eder. Ho la sensazione, ma è una mia sensazione, che però adesso la Samp voglia mettere un po', non dico spalle al muro Eder, voglia far uscire allo scoperto anche lo stesso giocatore per far capire insomma che la Samp lo vorrebbe tenere volentieri, però se il giocatore poi non vuole rimanere a Genova e giocarsi le sue opportunità con la Samp, quello è un altro paio di maniche. Tradotto, Ferrero non può permettersi di essere lui a vendere Eder dopo aver venduto tutti gli altri per evidenti problemi di rapporto con la piazza. Ma che state a dire? Eder al filippino non glielo damo, ma non siamo mica a discount, a tochir rosicone, ci vuoi scippare Eder, filippino? Grazie, presidente. Stirate la cravattella. Ma non si dice che l'altra volta era, sì, pranzo con Briatore. Perché era pranzo con Briatore? È vero che gli vende la Samp. ma chi dice queste cose? E dice Mario Giunta, Mario Giunta. Io sono uno, io sono uno così naturale, ho farsa terza media. Sì, lui è uno che dice che non va a Forte dei Marmi e poi il giorno dopo va a Forte dei Marmi a proposito del premio Pinocchio, però oggi Marotta si è messo sul podio. Grazie Mario Giunta. Grazie a voi, bravo, un abbraccio. Bravo. Dagli studi di Sky, abbiamo un minuto così per vivere proprio l'immediata vigilia di Roma-Juve dall'Olimpico. Dario. Eccoci Giovanni, vi faccio sentire l'inno della Roma che stanno cantando tutti i 60.000, tranne i 1.600 juventini, e lo spicchio di tribuna loro riservato fa effetto vedere lo sciopero della Sud, l'unica settore dello stadio che non partecipa alla tradizionale sciarpata per la nota protesta contro il presidente Pallotta e contro le misure restrittive decise dalla prefettura capitolina per il tifo giallorosso. 4 minuti all'inizio, le formazioni confermate con le tante variazioni di queste ultime ore che abbiamo già annunciato. Arbitra Rizzoli, è bene ricordarlo perché lo sappiamo, l'arbitraggio in Roma-Juventus, Juventus Roma, non è mai dato secondario. A te la linea dall'Olimpico. Grazie Dario, e all'Olimpico torneremo dopo il GR delle 18 e fino alle 20 per raccontare questo Roma Juventus con tanti ospiti, tifosi eccellenti, firme del giornalismo. Poi vi parleremo anche della giornata che inizia alle 20.45, sono altre 7 partite con dei temi molto interessanti. Se volete intervenire 800 24 00 24. Siamo qui che vi aspettiamo fino alle 20. Ci sentiamo tra pochi minuti. Vediamo, il mercato chiude lunedì alle 23. Tutti convocati. Giuseppe Cruciani. Cruciani, datti una calmata, dai. David Parenzo. Certo che di cazzate Parenzo ne dice tante. La Zanzara. E che cos'è? Che è un bel ambiente. Ambiente di maiali. Dal 31 agosto, solo su Radio 24. Questo non credo. Si ricomincia. Tutti convocati. Si ricomincia con Roma-Juventus in campo da 4 minuti, risultato ancora fermo sul 0-0, ma c'è già tanto da raccontare, allora subito all'Olimpico da Dario Ricci. Sì, partiamo subito da questo calcio d'angolo per la Roma, il calcio al centro di Digne, palla che passa davanti alla porta di Buffon e ci pensa Chiellini a deviare ancora una volta in calcio d'angolo, decisamente meglio la Roma in questi primi minuti di gioco Giovanni, tant'è che al primo minuto c'è stato il cross di Iago Falchi dalla sinistra, pronto Florenzi a intervenire di testa, ma c'è stato un contatto, mi è sembrato di vedere con Evram, ti chiedo conferma da Mandzukic, studio Mandzukic. Con Mandzukic, cioè, che finora si sta sdoppiando in un lavoro di soprattutto di contenimento, ebbene per Rizzoli tutto regolare, per il resto dello stadio, soprattutto i tifosi romanisti, decisamente no, episodio quantomeno da rivalutare alla Moviola. Di fatto una Juventus che finora non solo ha fatto fatica a superare il centrocampo ma anche la tre quarti, una Roma decisamente più pimpante, e ora i bianconeri conquistano un calcio di punizione per un fallo su Dybala che permette loro di riconquistare qualche metro e un po' di fiato. Quando siamo al quinto di gioco, ancora 0-0 tra Roma Juventus e l'Olimpico. Sì, quinto minuto di gioco, sicuramente molto, ma molto meglio la Roma in questo primo scorcio di partita. L'azione di cui parlava Dario Ricci la ricostruiamo, traversone dalla sinistra di Iago Falchi, palla che viene ribattuta dalla difesa, resta però all'interno dell'area di rigore, sul pallone va Florenzi, alle sue spalle c'è Mandzukic, sembra una spinta, in realtà è forse un incrocio di gambe tra Mandzukic e Florenzi, e dà l'impressione insomma di esserci il contatto, dà l'impressione che potrebbe esserci il calcio di rigore, ma il direttore di gara, che lo ricordiamo è Rizzoli, quindi direttore di gara di assoluta assoluta garanzia, l'antifurto migliore per le polemiche, dice che si può proseguire, quindi lascia proseguire 0-0, sesto minuto, qui un siamo. Cordiale saluto dal senatore Maurizio Gasparri. Io penso sia auspicabile parlare chiaro, a tal punto lo dicano, ormai si è stabilito un sistema sovietico imposto dalla Juventus, sì, era rigore o no, era rigore, no, era, certo, rigore, che no, era rigore, e mo basta, però faccio un tweet, adesso faccio un tweet hashtag mo basta, va bene? Sì, facciamo il tweet mo basta. Fabrizio Ravanelli, ciao Fabrizio. Ciao, ciao a tutti. Partita meglio la Roma, decisamente. Sì. Fa un po' impressione vedere la Juventus così come si presenta oggi a Roma. C'è Sturaro al posto di Pereira, ne abbiamo parlato anche prima dell'inizio della partita, ci sono una serie di scelte che lasciano intravedere una volontà più difensiva di Allegri. Ma forse, magari, credo che Allegri, vedendo la squadra tutti i giorni in allenamento, magari avrà deciso di fare una partita un po' più guardinga e cercando magari di colpire la Roma, non dare campo alla Roma e magari cercare di fare il gioco della Roma, ecco, cioè ripartire e poter mettere in difficoltà la squadra di Garcia. Intanto Roma ancora vicinissima al vantaggio, Iago Falche, palla persa da Pogba a 20 metri dalla sua porta, pressing feroce di tre romanisti, sarà assist per Iago Falche, limite dell'area di rigore, e sinistro che ha sfiorato l'incrocio dei pali, Pogba che io credo sia uno degli uomini su cui, Fabrizio, dobbiamo puntare più l'attenzione, perché certamente è un grandissimo campione, non è scontato che possa fare il leader, il regista, quello che oggi in parte gli viene chiesto dopo la partenza di Pirlo. Assolutamente sì, credo che su di lui ci siano tante responsabilità, adesso bisogna vedere se il ragazzo riesce magari a caricarsi sulle spalle tutte queste responsabilità e la leadership dello spogliatoio, non è facile, queste sono cose che onestamente sono sempre, come si dice, figlie di giocatori che hanno grande esperienza a livello internazionale, lui è un giocatore che ha grandi qualità, grandi caratteristiche, ha un grande futuro, però bisogna avere pazienza anche con lui e lui deve avere allo stesso tempo quell'umiltà che lo ha contraddistinto i primi anni con Conte, perché qualora lui pensi di essere più bravo degli altri, poi si va incontro magari a fare delle figuracce, quindi deve continuare a giocare con umiltà senza cercare di strafare, perché poi magari cercando di strafare si possono andare incontro a delle partite sottotono come magari è stata la prima di campionato contro l'Udinese. Sì, e poi la 10 è una maglia che pesa la Juventus. Sì, la 10 è una maglia che pesa e è una grande responsabilità anche questo gesto. Magari la società lo ha voluto far sentire importante, però allo stesso tempo credo che sia questa maglia un peso enorme. Quindi va dato anche a lui un po' di tempo, un po' di tranquillità, ma allo stesso tempo, non voglio essere ripetitivo, anche lui deve essere intelligente a giocare con umiltà, perché i campioni giocano sempre con umiltà e giocano un calcio semplice, poi c'è anche tempo per la giocata, però deve capire quando si deve farla o no. Sono momenti da fare la giocata e momenti magari di essere a disposizione, trascinare tutta la squadra nella direzione giusta. Sì, un amico parla dell'arbitraggio, Rizzoli, non di garanzia. Ripetiamo, dopo 30 secondi quell'episodio, magari tra qualche minuto facciamo luce, proviamo a raccontare anche con un moviolista di che cosa si è trattato. Per chiudere con Fabrizio Ravanelli, non so chi rischi di più tra le due, per carità, siamo alla seconda giornata, oggi non si vince lo scudetto, forse non si perde nemmeno, ma di sicuro sono due squadre che hanno bisogno di qualche certezza in più, e io credo che se una delle due dovesse uscire sconfitta oggi, qualche ripercussione potrebbe esserci. Chi rischia? Ma io credo che rischi di più la Juventus, lo dico da juventino. La Roma ha fatto, come si dice, un pareggio a Verona e ci può stare, perché Verona è una squadra comunque molto ostica, è un campo difficile. La Juventus ha perso la prima e quindi è stata una sorpresa in pratica. Quindi quello che è la squadra che rischia di più in questo momento è la Juventus. Dovesse perdere, sicuramente non dico che si aprirebbe una crisi, però farebbe riflettere su tante cose. Credo non sia mai successo nella storia della Juve che aveva iniziato perdendo le prime due giornate di campionato, e anche questo darebbe una dimensione statistica eventualmente al momento della squadra di Allegri. 11° minuto, 0-0 tra Roma e Juventus, ma fin qui si è vista praticamente soltanto la Roma. Ringrazio Fabrizio Ravanelli, grazie Fabrizio. Grazie a voi. Grazie a Fabrizio Ravanelli. 800 24 00 24, ci fermiamo, c'è il traffico, poi torniamo all'Olimpico, poi facciamo la moviola del contatto Mandžukić Florenzi. Traffico. Partita in bilico, spot per noi. Tutti convocati. Tutti convocati. 13° subito all'Olimpico. Dario. È stato un bel cross di Pogba dalla sinistra, palla che è arrivata sul secondo palo a Mandžukić, che ha tu per tu con Szczęsny, però non è riuscito a controllare, a divare efficacemente verso la porta romanista. Rimessa dal fondo per i giallorossi, un paio di notazioni tattiche sul lavoro proprio dei due centravanti. In fase di ripiegamento Dzeko va a disturbare Padoin, che finora di fatto in fase di costruzione non ha mai toccato il pallone. Mandžukić dall'altra parte si offre non solo in fase di contenimento ma anche e soprattutto di sponda e rifinitura per gli inserimenti, in verità pochi finora, dei centrocampisti bianconeri. Un'altra nota, Giovanni, mai vista negli ultimi anni una circolazione di palla così difficoltosa per la Juventus fin dal primo passaggio, quello che si fa carico della costruzione del gioco è soprattutto Bonucci. Seguiamo intanto però questa incursione di Pogba che prolunga per Mandžukić sull'out sinistro, tenta di salvare il pallone dal fondo, non ci riesce, il croato ancora rimessa in gioco per Szczęsny. Quanto siamo al 14° 0-0 tra Roma e Juventus all'Olimpico. Sì, e mi sembra invece al contrario che nell'approccio forte, fortissimo della Roma a questo primo quarto d'ora di partita ci sia anche qualche particolarità, qualche novità. Ad esempio Iago Falque a sinistra sta riversando in area di rigore una gran serie di traversoni, che è una novità ed è una novità per la Roma. Parliamo un attimo dell'Inter, sì, con Marco Barzaghi. Inter. Innanzitutto, per vincere a Carpi bisogna che l'Inter vada veramente e giochi al 200%, perché essendo la prima partita in casa del Carpi di Serie A nella storia, io credo che tutti i giocatori non ci metteranno il 100% ma molto di più, quindi sarà una partita molto difficile. E Icardi non lo rischi? No, assolutamente. Mancini che non rischi Icardi questa sera, Modena contro il Carpi. Marco Barzaghi, ciao. Buonasera a tutti, sono proprio qui nello spogliatoio dell'Inter al Braglia. Addirittura? Sì, stiamo aspettando che ancora allestiscano il tutto, direi ancora vecchio stile, quindi una partita da prendere con le pinze, come diceva Mancini. Sì, anche se penso Mancini starà in panchina anche col cellulare per controllare se arriva qualche telefonata di mercato. È tutto il pomeriggio che ne parliamo, riguarda anche la Juventus, la Roma, insomma vi abbiamo dato le notizie anche attraverso i microfoni di Premium, sui Turbe, su Draxler. Anche per l'Inter le prossime 18 ore non sono banali. Sì, penso che la Samp prenderà i barbo e poi dopo anche questo teatrino in questi due giorni, comunque Ferrero non può rifiutare un'offerta a 9 milioni per Eder, un giocatore di 29 anni, quindi penso che si sbloccherà l'attaccante esterno di cui ha parlato anche Toir. Poi a ruota l'Inter cercherà di prendere Felipe Melo e un terzino sinistro, Siqueira, per accontentare le richieste di Mancini, e vediamo se riusciranno a, magari sfruttando le ultime ore di mercato, a regalargli altri tre giocatori. Comunque una rivoluzione importante quella che aveva chiesto, che si è completata. Sì, credo un'impresa quasi da record, fare 3-4 acquisti di un certo livello nelle ultime 18 ore di mercato. Ricordo Lotito, primo anno della Lazio, rifece la squadra praticamente in un giorno, però stavamo parlando di una cosa diversa. Intanto stasera Modena, centrocampo guida Medel, dovrebbe essere l'ultima volta nella testa di Mancini. Sì, è quello, ne stavo parlando prima anche con dei colleghi, per me è il grosso problema e non vedo come un Felipe Melo possa esserne la soluzione. Cioè, un Inter è vista anche nella prima con l'Atalanta, ma anche in tutte le amichevoli, mi sembra in grossa astinenza di piedi buoni e di calcio cerebrale di qualcuno che faccia partire l'azione. Non può essere Del, che si è visto che comunque non è un costruttore. Mi sembra che il Felipe Melo visto in Italia, non credo che in Turchia sia completamente cambiato, quindi io sarei andato su altri obiettivi. Sì, ma c'è anche un po' di schizofrenia in questo mercato, intercolpita come tutte le altre. Felipe Melo, cui è stato fatto rinnovare il contratto con il Galatasaray, adesso costa di più, e poi vedremo che cosa succede. C'è chi scrive un Mister X e non dà un'identità a questo possibile colpo di centrocampo. Vedremo, non so nemmeno se Mancini abbia in testa un'idea particolare per la sua Inter, cioè non si è capita se il 4-3-1-2 con Rombo, il 4-3-3, il 4-2-3-1. Ecco, io penso probabilmente lo deciderà domani. Il 4-2-3-1, se veramente riuscirà ad avere anche Eder, avere un ventaglio di soluzioni in attacco con Eder, Jovetic, lo stesso Palacio, Perisic da mettere alle spalle di Icardi, dare a loro, diciamo, l'inventiva, il costruire gioco, costruire pericoli per gli avversari, e poi dietro Medel o Felipe Melo con Kondogbia a proteggere la difesa. Penso che sia un po' questa la sua idea. Ti faccio sentire Mancini ieri sulla necessità di non sottovalutare la partita col Carpi. Poi c'è anche un dato statistico che aggiungo, perché l'Inter l'anno scorso, prima delle pause di nazionale o di ferie, non ha mai vinto, steccato. Ha sempre steccato 3 pareggi, 2 sconfitte, questo dice la statistica. Anche per questo magari Mancini ieri ci è andato un po' con le pinze. Tutti i giocatori che sono qua sanno che saranno qua sempre, perché da qua alla fine, e quindi i giocatori che sono qui in questo momento devono essere pronti a giocare al 200% per fare in modo che noi possiamo vincere anche la partita di domani, quindi sanno benissimo e sono concentrati per questo. Questo Mancini, anche perché Marco, della partita con l'Atalanta resta il gol di Jovetic, resta la vittoria che ha cancellato una settimana di potenziali polemiche, di tanti dubbi, però bisogna anche ricordare per 60-70 minuti una squadra che non si è espressa bene. Tanta fatica, infatti il gol di Jovetic, non so se vi ricordate, l'esultanza di Mancini ha un po' anche, era la spiegazione di quanto ha risolto la magia. Chiaramente ci si aspetta di più, si aspettano delle risposte importanti dopo anche gli investimenti fatti in sede di mercato. Sarebbe veramente importante fare bene questa sera e dare una prima prova di continuità che non c'è mai stata nelle ultime stagioni. Ci può essere qualche novità di formazione, qualche sorpresa dell'ultima ora? Non credo, però dovrebbe giocare Brozovic a centrocampo, quindi non Guarin, non Gnucuri, con Medel e Kondogbia, Hernanes, Palacio e Jovetic. Hernanes, è ancora possibile che in extremis possa andare via sul mercato? Continua il nome a essere fatto anche in orbita Juventus. Ma mi sembra difficile impostare una trattativa così importante in così poco tempo. Poi a fare Inter-Juve mi sembra che Soir sia stato chiaro. Mi sembra difficile che ceda, diciamo, quello che è stato il suo primo vero grande acquisto alla Juventus così poco tempo, senza poi comprare un giocatore di appeal in cambio. Sì, rischierebbe di infilarsi in un vespaio di critiche e di polemiche. Grazie Marco. Grazie a voi. Grazie Marco Barzaghi, direttamente dagli spogliatoi di Modena per Carpi Inter, minuto 21. Intanto l'Olimpico 0-0 tra Roma e Juventus. C'è un cartellino giallo, non ho visto a chi, aspettate che lo chiedo a Dario Ricci. Dario. Paul Pogba ammonito insieme anche a Giorgio Chiellini, che è stato ammonito per proteste. Pogba ha fermato fallosamente Salah, che aveva provato un'accelerazione. Tema tattico della gara che non è cambiato, è cambiato però solo alla veemenza della Roma, che dopo aver provato la spallata iniziale sta riprendendo un attimo fiato. Seguiamo questo calcio di posizione di Pjanic, il cross al centro, ancora una volta svetta su tutti Chiellini, che salva in calcio d'angolo. Dicevamo, canovaccio Giovanni che non è cambiato di molto, con la Juventus che fa una gran fatica nel palleggio, e anche dal punto di vista fisico gli juventini sembrano veramente la brutta copia della squadra che abbiamo ammirato negli ultimi 4 anni. Seguiamo ancora questo angolo, se sei d'accordo. Sì, seguiamolo. Pallone che arriva a Nainggolan, al limite dell'area, libera però Pogba il tocco del belga impreciso, il francese ha potuto allontanare senza però dar vita al contropiede juventino. 22esimo di gioco, 0-0 tra Roma e Juventus all'Olimpico. Ammonizione che era per Pogba, per la trattenuta a Salah, ammonizione mi pare sacrosanta. Lo chiediamo a Tiziano Pieri, ex arbitro moviolista. Tiziano, ciao, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, ciao Giovanni, a te e a tutti i tuoi radioascoltatori. Nulla da dire ovviamente sull'ammonizione di Pogba, trattiene Salah che va in corsa, Chiellini protesta ma fa parte del copione. Certamente, Rizzoli è sulla partita, c'è diciamo che di tutto questo arco del primo tempo ci dobbiamo focalizzare sul 29esimo secondo. Quell'episodio lì, 30 secondi, Mandzukic-Florenzi. C'è questo cross dalla sinistra da parte di Iago Falche per Dzeko, che non arriva su questo pallone, il pallone sta uscendo dall'aria, in corsa arriva in vantaggio sul pallone Florenzi e c'è questo contatto, a mio modo di vedere, con le gambe di Mandzukic che è dietro. Non è una spinta, cioè Mandzukic non mette le mani sulla schiena. Bravissimo. Attenzione, scusa, Olimpico subito, sì. Olimpico. Il palo di Miralem Pjanic che scuote il legno alla destra di Buffon, una bella azione ancora di Salah sulla destra, l'appoggio al limite dell'area per Pjanic, il tiro di destro a girare ad uscire e il pallone che colpisce appunto il palo della porta difesa da Gigi Buffon, Roma vicinissima al vantaggio così come lo era stato Giovanni appena 40 secondi prima, il cross l'ennesimo di Thiago Falche e Dzeko da pochi passi che aveva mancato la deviazione decisiva, ancora forcing della Roma, il palo di Pjanic a portare i giallorossi vicinissimi al vantaggio, ma lo 0-0 ancora non si schioda. Sì, Roma che trema, Juve che trema ma in questo momento resiste. Torniamo da Tiziano Pieri, quindi non una spinta ma un incrocio di gambe, quello dopo 30 secondi, lo ricordiamo, Mandzukic e Florenzi davanti e quindi? Sì, e c'è questo incrocio, quindi dobbiamo analizzare. A livello regolamentare non c'è volontarietà, ma ormai da anni dobbiamo essere chiari, non esiste più il concetto di volontarietà da parte di un giocatore, perché Mandzukic sta guardando il pallone, quindi come Florenzi sta aspettando l'arrivo del pallone, non si avvede delle gambe di Florenzi, però per negligenza, a stretti termini regolamentari, questo era un calcio di rigore che doveva essere concesso. Sì, l'impressione era quella anche a velocità normale, senza vedere il replay, perché è evidente che non c'è un tuffo da parte di Florenzi, quindi ci deve essere stato un tocco dietro. All'inizio sembra una spinta, poi in realtà è l'incrocio di gambe. C'è un incrocio di gambe dopo, su questo tocco di Mandzukic, se vuoi involontario, ma a stretti termini regolamentari poco importa, diventa un autosgambetto poi di Florenzi, ma perché causa di questo contatto con le gambe di Mandzukic. Sì, ingenuo Mandzukic che si fa, evidentemente non è un difensore, si fa prendere il tempo. È stato ingenuo nell'affrontare un giocatore ormai esperto, anche se giovane come Florenzi, all'interno dei 16,50 m dell'area di rigore, che è molto scaltro negli inserimenti e ha bruciato l'attaccante Mandzukic, ecco tutto lì. Sì, la domanda che mi viene da fare spontanea è perché non abbia dato una mano a Rizzoli Irrati, che credo sia l'addizionale di porta da quella parte, che credo avesse la visuale abbastanza libera. Io credo che ci sia stato un confronto, i primi secondi sono i più difficili, perché come le squadre anche gli arbitri devono leare, no? Le comunicazioni della squadra, a mio modo di vedere ha influito sulla decisione di non concedere il rigore e il fatto che il calciatore non guardasse, hanno diciamo valutato la non volontarietà, però purtroppo a livello regolamentare oggi non si può più valutare solo la volontarietà, qui si deve capire se il giocatore è stato negligente o imprudente, e a mio modo di vedere questo poteva essere accordato un calcio di rigore. Quindi linea di massima c'era rigore per la Roma dopo 29 secondi di gioco, sì. Ne sentiremo parlare, immagino. Grazie Tiziano, sì, grazie ci Giovanni. Sentiamo più avanti se okay. Possiamo disturbarti. Sì, sicuramente sì. 27esimo minuto, 0-0 l'Olimpico tra Roma e Juventus, ma ci ci torniamo subito dopo la pubblicità. Ecco, a proposito di quello che hai detto prima in radio, tu hai detto che in Italia la radio poi si cazzeggia, eh. No, sì. Tutti convocati. Tutti convocati. Andiamo all'Olimpico, 800-24-00-24, Dario Ricci. 28esimo di gioco, pochi istanti fa un bello spunto a centrocampo di Dybala, il primo della partita, bravo l'argentino a seminare Keita, ma poi l'azione si è persa per un fraintendimento tra lo stesso Dybala e Mandzukic, segno che appunto i lavori sono davvero in corso in questa Juventus. Seguiamo però Mandzukic che appoggia su Pogba, che in fase offensiva manovra spesso sul fronte sinistro, sta ancora la palla sul lato destro per Lichtsteiner, attraverso i piedi di Caceres, prova Lichtsteiner la solo Digne e lo chiude in calcio d'angolo. La Juventus prova a farti vedere dalle parti di Cesni, Giovanni. Sì, seguiamo allora questo calcio d'angolo, detto che fin qui Dybala si è visto davvero poco, pochissimo nella manovra della Juventus. Intanto saluto Roberto Renga, ciao Roberto. Sì, buon pomeriggio a tutti, buona aspetta partita. Che seguiamo dall'Olimpico il calcio d'angolo della Juventus, vai Dario. È proprio Dybala sulla bandierina, pronto a calciare, Pogba sul secondo palo, Mandzukic sul primo, tutte le torri al centro dell'area partono i blocchi, il cross di Dybala, Szczesny blocca in due tempi e può rilanciare ora Lorenzi e l'azione del contropiede romanista, e ora sarà nel cerchio di centrocampo, si gira subito l'egiziano, prova subito a ribaltare l'azione, appoggia Pjanic, palla che arriva Dzeko spostato sulla sinistra, prova a rientrare sul destro il bosniaco, dal limite il tiro contrato, la respinta di Sturaro e poi parla a Dybala che conquista un fallo che permette alla Juventus di ripartire, di respirare un po'. Sì, soprattutto di respirare, grazie Dario. Roberto Renga, meglio decisamente sì, la Roma così. In questa mezz'ora? Oh, decisamente, la Roma meriterebbe largamente il vantaggio. Si fa fatica a riconoscere la Juventus, sia sul piano del gioco che sul piano dell'intensità o della famosa cattiveria agonistica. Sembra una squadra che manchi di personalità, che non creda in se stessa, mentre invece la Roma, almeno per i primi 8 minuti, è andata a 1000. Poi dopo per il resto, adesso sta andando a 500, e però sempre meglio della Juventus, che comunque da quando ha cambiato modo di giocare copre un po' meglio il campo. Con la difesa 4 riesce un po' ad arginare sulle fasce il gioco della Roma. Sì, anche se poi davanti, ne parlavamo qualche istante fa, non c'è stato fin qui sbocco, non è riuscita la Juventus in nessun momento, tranne una mischia in mezzo all'area di rigore a creare i presupposti per rendersi pericolosa. Credo che mai come in pomeriggi come questi alla Juventus si colga la differenza tra ciò che è stato fino a giugno e ciò che è in questo momento, che non necessariamente sarà peggio poi, anzi la Juventus sta costruendo un nuovo progetto, però oggi mancano quei punti di riferimento in mezzo al campo che si chiamano Pirlo, Vidal, Tevez, e che anche caratterialmente in queste situazioni erano capaci di fare la differenza. Questa secondo me può essere la lettura. Ma non c'è dubbio, anche in giornate negative, l'anno scorso la Juventus magari aspettava l'assolo di Tevez, no? O l'agonismo di Tevez o di Vidal, o il lancio e la punizione di Pirlo. In questo momento sembra una squadra orfana, su questo non c'è dubbio, però ricordiamoci anche che magari in assenza di gioco, con due esterni diversi, Quadrado per esempio da una parte e Alexandro dall'altra, no, potrebbe giocare meglio la Juventus, perché basta appoggiare il pallone, no, di interno sulla fascia, il gioco può venire da solo. E davanti manca anche Morata, che se non sbaglio sono tutti in panchina, in teoria potrebbero anche giocare, probabilmente non sono pronti, però alla Juventus manca un regista. Io non credo che Marchisio lo sia, e Marchisio lo vedrei bene a centrocampo accanto a Pogba, sì, con un grande regista. Non lo è Padoin e non lo è nemmeno Pogba, no, che l'abbiamo visto, nemmeno visto perdere palla almeno due o tre volte in posizione pericolosa in questa prima fase del primo tempo. Ci diceva prima Tiziano Pieri, lettura della moviola dell'episodio del 30° secondo, Mandzukic su Florenzi, 80% rigore, 20% involontarietà. Io sinceramente non sono riuscito a capire bene, però mi fido di Tiziano. Se Tiziano dice che è l'80% rigore, allora diciamo che magari il rigore sarebbe bene se fosse al 100%, però sì, il rigore nel concetto che c'è il contatto, oramai sulla volontarietà c'è poco, perché non si discute più di volontarietà o meno, c'è il danno, c'è il fatto di essersi fatti anticipare, quindi quel contatto doveva portare, dice Tiziano Pieri, a un calcio di rigore per la Roma. Devo dire, qualche protesta, ma grande maturità. In passato abbiamo visto Roma-Juventus più torridi, molto più cattivi, su episodi di questo genere, passato anche recente. È vero anche che l'azione è proseguita, non so se c'è stato caso, per cui se ti fermi a discutere magari gli avversari ti fanno gol. Però in ogni caso, in una maniera o nell'altra, la Roma avrebbe meritato il vantaggio. Ricordiamo anche il palo di Pjanic, molto bello, no? Con quella palla accarezzata, e tutte le azioni che hanno fatto. E adesso l'interrogativo è uno, anzi sono due. Uno che riguarda la Roma riuscirà a tenere questo ritmo fino alla fine? Perché oggi fa anche molto caldo a Roma. Due, la Juventus subirà sempre o riuscirà a avere una reazione? La partita si fa molto interessante comunque. Sì, non bellissima. Assolutamente, no, non bellissima, ma molto interessante. Di sicuro sta regalando degli spunti. Roma che ancora va vicina, ma poi il gioco è interrotto. C'era stato un colpo di testa di Dzeko, parla alta sopra la traversa con qualche trattenuta di troppo all'interno dell'area di rigore. Sì, questo era fallo assolutamente di Dzeko su Chiellini, che pochi secondi prima invece da parte sua aveva randellato Salah, se non sbaglio, se non ho visto male. Io vi chiedo, è anche una barriera rude. Ma i collaboratori, quelli dal fondo campo, degli arbitrali, ma adesso che non devono più guardare, no, se è gol o non gol, ma non guardano se è fallo o in area, se non lo so, da una parte e dall'altra, se ci sono i rigori. Sì, domanda che abbiamo girato sull'episodio del trentesimo secondo. Domanda che abbiamo girato sull'episodio del trentesimo secondo, sì, quello in cui il signor Irrati, addizionale di sinistra, aveva certamente la visuale libera, però c'è Rizzoli è anche uno abituato a decidere abbastanza da solo. Grazie Roberto. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie Roberto Renga, saluto Ciccio Graziani intanto, ciao Ciccio. Ciao ragazzi. Aspetta che andiamo all'Olimpico da Dario Ricci. Cosa sta succedendo? C'è un giocatore della Juventus a terra? C'è un giocatore della Juventus a terra, ma credo che di fatto ci sia una sorta di time out, no? Perché, come sai Giovanni, è nelle prerogative dell'arbitro, il caldo è asfissiante, malgrado che ormai da parecchi minuti il terreno del gioco dell'Olimpico sia completamente in ombra, e Rizzoli, con l'occasione delle cure che si stanno prestando al bianconero, al numero 20 Padoin, sta diciamo lasciando anche ai giocatori l'occasione di rinfrescarsi, di bere. Più volte in queste pause tutti a turno sono andati a chiedere acqua alle panchine, e del resto anche nell'ultima partita del Bayern Monaco domenica scorsa il caldo in Baviera aveva fatto sì che l'arbitro optasse per una soluzione del genere. Bene ha fatto, direi, Rizzoli a fare altrettanto. Sì, eccoli che sono tutti fermi a bere, partita sì, che si ferma per un minuto. Del resto ci sono credo 35-36 gradi all'Olimpico, grande sì, umidità, sì. E quindi anche se il ritmo non è risentito fin qui, evidentemente lo sforzo è stato forte. Grazie Dario, torniamo subito. Ciccio Graziani, tutto regolare quando si gioca alle 18 il 31 agosto, 30 agosto, partita che avrebbe dovuto giocarsi in serale, non si fa per altri motivi. Sì, ma anche se si fosse giocato nel serale, con questo caldo forse si abbassa di qualche cosa la temperatura, ma rimane comunque sempre molto alta. È che c'è stato fino a qualche giorno fa un pochino più di fresco, si erano abbassate le temperature, adesso sono nettamente rialzate, ad agosto è possibile, quindi Purtroppo può succedere. Io mi ricordo per esempio ai mondiali dell'82, giocavamo a fine giugno, primi di luglio in Spagna, e mi ricordo che contro il Brasile c'erano 45, 42, 43 gradi, forse anche quasi 45, eppure ce l'abbiamo fatta a giocare. Sì, a calcio si gioca sempre comunque. Intanto cartellino giallo per Chiellini, protagonista di un'entrata bruttissima, la partita si sta accendendo. Dario, raccontiamola, perché c'è una mezza rissa in campo. Sì, parapiglia a dir poco per questo brutto fallo di Chiellini su Pjanic, che rimane a ancora a terra dolorante, inevitabile. Ecco adesso Manolas che si spintona con Mandzukic, il Sassuolo prova a mettere la calma, ma le due squadre sono in un pugno di metri e si guardano a dir poco in cagnesco. Decisamente brutto l'intervento di Chiellini, che parte tra l'altro tra i juventini, quello per alcuni aspetti più efficace, ma anche il più nervoso, perché è già almeno il terzo episodio che lo vede protagonista. Ben ha fatto, visto anche il fallo, Rizzoli a sanzionare il bianconero con il cartellino giallo, e forse poteva starci anche qualcosa in più. Ma in realtà prende il pallone, però evidentemente è un'entrata molto pericolosa, quindi credo giusto il cartellino giallo, ricordando che 3 minuti fa l'avevamo raccontato con Roberto Renga, un intervento da dietro molto duro di Chiellini su Salah. Chiellini che sta cercando di alzare il tono della presenza, del carattere anche all'interno della sfida. Chiedo a Ciccio Graziani se è sorpreso dalle difficoltà della Juventus in questa prima parte di partita. No, sono sorpreso, anche perché in questo momento la Juventus è un centrocampo di medio livello, Costuraro, Padoin, non mi sembrano giocatori di alto livello, quindi se togliamo Pogba mi sembra un centrocampo di una squadra di media classifica, con tutto rispetto. Aver perso Pirlo, Tevez e Vidal sono 3 pezzi da 90, e quindi in questo momento la Juve la vedo soprattutto in quel reparto in difficoltà, ma è nella logica, perché con tutto rispetto per quelli che giocano, quelli che non ci sono più erano nettamente più forti di questo. Sì, non è facile sostituire Vidal e Pirlo. Problemi di gli manca Marchisio, che sono già giocatori di un livello nettamente superiore, però per quanto sto guardando io e guardando anche le qualità di questi giocatori, con tutto il rispetto, ma Sturaro e Padoin sono due alternative assolute, non possono giocare titolare nella Juventus. Sì, soprattutto non in una partita come questa, già erano andati in difficoltà domenica con l'Udinese. Non c'è solo Roma-Juve oggi, c'è anche un Toro-Fiorentina bellissimo, anzi secondo me Toro-Fiorentina è la partita più bella in realtà a livello tecnico e di attese di questa seconda giornata. Ciccio, ti faccio sentire Paolo Sosa ieri, perché poi ci devi aiutare a decodificare qual è il significato delle sue parole. Il mio avversario, collega Ventura, è un allenatore veramente molto esperiente, conosce bene quella città, conosce bene la sua società, i suoi giocatori, ha una squadra basata a processi semplici, continui, di altissima intensità e mentalmente forti su tutti gli aspetti, anche subito dalla prima una rimonta vuol dire tanto. Dobbiamo esserci minimamente allo stesso livello sul piano di concentrazione e di intensità. Questo per dire che Paolo Sosa teme un po' il Torino, mi pare di capire. Ma tende un po' anche a magnificare. Lui parla molto bene dell'allenatore, ma sa che l'allenatore sono diversi anni che è lì, quindi conosce bene la squadra, ha dei meccanismi collaudati, anche se sono cambiati alcuni giocatori, ma la logica di gioco è rimasta sempre quella. Lui sa che non lo può dire, naturalmente, dal punto di vista tecnico la Fiorentina è più forte del Torino, su questo non c'è dubbio, però poi in una partita singola a volte certi valori si possono anche azzerare, quindi la Fiorentina sa che gioca contro un Toro che adesso con la prima in casa, tanto entusiasmo, tanta voglia di far bene, dal punto di vista psicologico è tranquillo, perché la rimonta e la vittoria di Frosinone è stata importantissima per iniziare bene, però sono due squadre che se la giocano a viso aperto, fermo restando che se la Fiorentina dovesse fare la sua partita, sulla carta la vedo leggermente avvantaggiata, perché tecnicamente è una squadra più forte del Toro. Però mi ha impressionato Kalinic. Sì, ma non solo Kalinic, ma anche tutto il resto della squadra. Hanno giocato contro il Milan una partita perfetta sotto tutti gli aspetti. Se stasera gli riesce di fare un'altra buonissima prestazione dal punto di vista tecnico e dal punto di vista tattico, ho l'impressione che il Toro possa andare in difficoltà, però è anche vero che il Torino in casa è una squadra che gioca sulle accelerazioni, gioca sull'entusiasmo, gioca sulla disponibilità, il sacrificio, e quindi una squadra che se se trova anche lei la serata giusta, può mettere in difficoltà una squadra anche tecnicamente più forte come quella della Fiorentina. Grazie Ciccio. Un abbraccio a voi tutti, ciao. Grazie a Ciccio Graziani, 43esimo 0-0, andiamo in traffico così poi rientriamo all'Olimpico e chiudiamo il primo tempo di Roma-Juve. Nando Sanvito per noi. Tutti convocati. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presento. Convocati 800 24 00 24. Andiamo all'Olimpico, Dario Ricci, per vivere l'ultimo minuto, credo, di questo primo tempo. Dario, noi siamo al 44esimo, bravo pochi istanti fa Padoin in fase difensiva a toccare di quel poco il pallone, il giusto per interrompere un'incursione di Salah che poteva farsi pericolosa dopo uno scambio con Dzeko. Ci riprova ora sul fronte sinistro Naim Golan, che viene però bloccato dopo un intervento anche di Caceres su Iago Falchi, che aveva provato a chiudere la triangolazione. Ora Pogba all'altezza del cerchio di centrocampo rimposta l'azione, poi si sbraccia nei confronti di Mandzukic e Dybala a chiedere di accorciare le distanze, di muoversi un po' per suggerire il pallone, cosa che in questo primo tempo è accaduta davvero raramente. Giovanni Pogba, che pochi un paio di minuti fa ha provato un allungo, l'azione si è conclusa col cross di Evra. Ora pallone per Dybala, ben chiuso da De Rossi, che si sta destreggiando molto bene in questo primo tempo nella, per alcuni aspetti inedita, posizione di centrale nella linea 4 a fianco di Manolas, ed è intanto Evra che chiude in fallo laterale quando siamo già nel primo minuto di recupero, ed è Florenzi a battere il fallo laterale per i giallorossi. Siamo ancora all'altezza della tre quarti difensiva della Juventus, palla che arriva a Dzeko che appoggia ancora su Florenzi, interviene ancora Padoin a chiudere lo scambio fra i due, ma il pallone ritorna ancora al centravanti bosniaco che appoggia su Naim Golan, e ancora una volta l'ennesima di questo primo tempo è Iago Falche sulla sinistra ad appoggiare di nuovo per Naim Golan. Salah tenta la percussione centrale, Chiellini respinge, arriva il duplice fischio di ritrovi, finisce qui il primo tempo, è 0-0 all'Olimpico tra Roma e Juventus, decisamente meglio la Roma, che lo ricordiamo al 40esimo secondo ha reclamato un rigore per il contatto tra Mandzukic e Florenzi, e poi al 15esimo ha colpito, anzi al 23esimo ha colpito un clamoroso palo con una splendida conclusione dal limite di Pjanic. Grazie Dario, ci ritroviamo per il secondo tempo. 800 24 00 24, leggo questo sms di un amico da casa, Massimo Zampini. Ciao Massimo. Ciao, buon pomeriggio a voi. Rizzoli dosa sapientemente i cartellini gialli, Chiellini sarebbe stato da espulsione per doppia ammonizione ma resta tranquillamente in campo. Poi c'è l'episodio del 30esimo secondo tra Mandzukic e Florenzi, e poi c'è una Juve non bellissima. Da dove vuoi partire? Ma gli episodi possiamo parlarne tranquillamente, sai che io non amo molto, mi diverte parlarne ma come gioco, niente di più. Su Chiellini è divertente vedere come il mondo sia vario, perché per me, e anche devo dire per i cronisti Sky che non sono proprio riconosciuti per essere tifosi juventini, l'intervento che è stato ammonito era sul pallone, quindi poi sì, prende il pallone come... però entra oggettivamente in maniera abbastanza dura, decisa. Secondo me ci può stare il cartellino giallo, l'altro da dietro rischia. Secondo me comunque quello proprio io non avevo dato neanche fallo, ma ripeto, poi ci incartiamo su questo. Sì. E no, secondo me la Roma molto meglio, cioè, questa è la verità. Poi come sempre gli episodi se ne può parlare 40 ore, siamo abituati così, ma poi c'è il campo e la Roma è molto meglio, avrebbe meritato il gol con la conclusione di Pjanic che è stata bellissima e sembrava obiettivamente dentro. E la Juve più che altro non esce mai, cioè esce poco ed è poco pericolosa, perché va benissimo, la Roma è forte, la Roma aggredisce, la Juve ha poi in difficoltà anche come assenze e tutto il resto, lo sappiamo. Però qualcosina in più me l'aspetto, almeno nel ripartire. Sì, c'è una mancanza di idee, forse anche di personalità. Diceva prima Ciccio Graziani, se il tuo centrocampo è composto da Sturaro e Padoin, evidentemente tu a Roma soffri, non sei più la Juve di prima. Esattamente, io personalmente, ora detto tra noi tanto per parlare così, io avrei messo o Cuadrado sugli esterni per far stare dietro anche Digne, perché poi metti un po' di paura e a quel punto vediamo poi chi sta più avanti o dietro. Oppure si potrebbe anche provare a cambiare modulo, per esempio inserendo Pereira per Oleksandr o Caceres, giocando a 4 dietro, lasciando quindi l'altro dei due che resta in campo a destra e a sinistra, e almeno tu aggiungi Pereira tra le linee al centrocampo a pressare sui portatori di palla della Roma, e almeno vedremo qualcosa in più, perché così è difficile pensare di poter fare gol. Mi sta deludendo Pogba, devo dirti la verità. Era già successo con l'Udinese, cioè la 10 pesa e forse pesa anche avere sulle spalle tutto. Bravo, secondo me pesa anche questo. Pogba è pronto a essere un grandissimo calciatore, probabilmente non è pronto a trascinare una squadra al momento senza leader, perlomeno se togliamo la difesa, e anche Buffon sono dei leader carismatici, però ecco, da Pogba non ci si può purtroppo ancora attendere la personalità tale da guidare tutta la squadra. Lui accanto Padoin, Storaro, ha sugli esterni Lichtsteiner e Evra, è complicato, la squadra si muove poco, quindi ecco, tende a strafare e non sempre sta alla copertura. Ragione in più per aspettarsi qualcosa dal mercato nelle ultime 18 ore. Grazie Massimo. Sì. Grazie a voi, ciao Giovanni, grazie. C'è Luca Telese, Luca, ciao. Ciao. Ti giro lo stesso messaggio girato prima a Massimo Zampini. Rizzoli dosa sapientemente i cartellini gialli, Chiellini doveva già essere sotto la doccia, e poi c'è quell'episodio lì al 30° secondo che abbiamo provato a ricostruire prima con Tiziano Pieri. La tua lettura del primo tempo? Ma la premiata macelleria Chiellini è riuscita a tenere dignitosamente e inspiegabilmente il risultato di pareggio con un catenaccio, insomma, da provinciale di quarto grado. Però le partite sono così e quindi sono preoccupato, e magari la Roma, che ha giocato un calcio straordinario, un fraseggio meraviglioso, un perfetto inserimento dei vecchi e dei nuovi, magari si prende un gol di quelli beffardi. Se la partita invece continua così e la Roma non cala fisicamente, la premiata macelleria Chiellini perderà 1-2-0. Per premiata macelleria in senso ironico, no? Quale altro senso potrebbe esserci? Vedo che menano, calciano, non hanno fatto un tiro in porta, sì, in modo accidentale. È veramente una squadretta, però la Juve è così, poi con l'aiutino un qualcosa magari riesce a vincere. Ma è una partita però anche meno maschia di altri Juve-Roma che abbiamo visto. È una partita perché più sbilanciata rispetto al passato. Superiore. La Roma ha un gioco veramente superiore in questa partita. Ho visto, forse praticamente l'unico che un po' delude è Dzeko. Cioè c'è una perfetta ragnatela stile Garcia, e però manca quello che la butta dentro. Per vederli correre bastava togliere Totti? Quel palo di Pjanic mi ha fatto veramente rosicare. Totti può fare un quarto d'ora da urlo, però non è quello che la butta dentro. Io vorrei che Dzeko si svegliasse e la buttasse dentro, perché vedo che anche lui paradossalmente è l'unico della Roma che è un po' in affanno, ha fatto qualche falletto. Stanno sempre lì a appoggiare, a tiki-takeggiare, scusate il partismo, e devono buttarla dentro come farebbe una squadra che gioca così, quindi sono preoccupato. E adesso quell'essere grottesco che risponde al nome di Luca Telese, personaggio da Suburra, che io aborro. Luca Telese, non inabissarti nelle stronzate. Non si dice così. Ma questo sembra Andro Mercu, non lo so, sembra veramente. Sembra Andro quasi Mughini. No, però non era d'accordo sulla macelleria Chiellini, questo è. Voleva... Ma veramente è una squadra al crepuscolo, è veramente, anche Pogba sembra. Pogba deludente. Sembra un po' Donzà, ma un po' meno bravo. Chiedo scusa, però mi sembra che stavolta Luca Telese abbia perfettamente ragione. Allora io, senatore Gasparri, scrivo un tweet: chiocciolina, a seconda dei casi, tutti convocati weekend, hashtag mobasta, ci aggiungo pure un altro hashtag, sistema Juventus, sti cazzi, altro hashtag, Chiellini macellaio, va bene? No, non va bene, non va bene, noi ci dissociamo. È perfetto. Ah, è perfetto. Senti, ma quindi mi avete cornamuse... esorcismi, qualunque cosa, perché se no il risultato di questa partita è scritto del 2-0 per chi? Per la Roma? Ma che stiamo facendo? Va bene, siete una radio in Nord Italia, ma perché? Sei parlato di esorcismi, esci da quel corpo, Telese, mi raccomando, esci da quel corpo. Ho 30 secondi, mi dici se hai visto questo primo tempo della Juventus? Quest'anno si gioca per lo scudetto e non solo per il secondo posto? Ma stai scherzando, è un campionato molto più equilibrato e il tema quest'anno sarà Spoon Juve, antologia di Spoon Juve, come una sorta di coro di preesistenze scomparse, e quindi speriamo che la Roma inizi a chiudere bene questa partita. Grazie Luca Telese. ciao. Grazie Luca Telese, buona partita, buon secondo tempo. Secondo tempo che continueremo a vivere qui fino alla fine con Dario Ricci dall'Olimpico, con altri ospiti, parlando anche di altre cose che succederanno in questa serata della seconda giornata di Serie A. 800 24 00 24, poi ci raggiunge anche Pierluigi Pardo, GR. Applausi per lui, pubblicità per noi. Tutti convocati. Convocati. 800 24 00 24, 8 minuti anche sul cronometro del secondo tempo di Roma-Juventus, risultato ancora sullo 0-0. Se volete chiamare, siamo qui ancora per un'ora per raccontare insieme questo Roma-Juventus. Meglio la Roma, decisamente meglio nel primo tempo, qualche episodio, qualche polemica, insomma il solito menu di un qualsiasi Juventus-Roma. Se volete scrivere messaggi SMS 349-238-6666, scrive un amico: sì, va bene Roma straripante, ma intanto siamo sempre 0-0. Saluto Pierluigi Pardo, ciao Pier. Eccoci qui, siamo nei meandri di Cologno Montese. Direi che la sintesi di questo primo tempo è in due statistiche: un tiro in porta della Juve nei primi 45 minuti non accadeva dal 2004-2005, e dal 2004-2005 la Juve non aveva un possesso palla così basso nel primo tempo. I segnali di questo primo tempo, di questa partita fino adesso, insomma, fino al minuto al quale siamo arrivati, che è il decimo della ripresa, sono sicuramente favorevoli alla Roma. Avrebbero pure che il risultato non sia sbloccato. La Juve ha sempre una sua pericolosità possibile, certo. Una Juve come tasso tecnico, quella di stasera, sicuramente sbiadita rispetto al passato, rispetto ai livelli dello scorso anno, su questo non ci sono grandissimi dubbi, però ci sono ancora le ultime ore di mercato con tutti i vari scenari. Sì, ci sono 18 ore, Marotta ha 18 ore per provare a rimettere un po' insieme i cocci. L'abbiamo sentito prima dire: non abbiamo mai trattato Draxler, comprendiamo anche la pietosa bugia intorno a quella che è la notizia di giornata, che ripetiamo per chi non la sapesse, e cioè Draxler va al Wolfsburg, Roma beffata quando pensava di avere in mano il giocatore. Roma decisamente meglio. Roma decisamente meglio, dà la sensazione di essere, soprattutto a tratti, su alcuni strappi del primo tempo, ha dato la sensazione di essere nettamente più pimpante, nettamente più in condizione, però poi alla fine siamo ormai quasi a un'ora di gioco, risultare 0-0, c'è un calcio di punizione per Roma da posizione interessante. Andiamo a Roma allora, andiamo da Dario Ricci. Vai. Dario. Sì, c'è Iago Falchi sul pallone, siamo intorno al vertice destro del fronte d'attacco giallo-rosso, parte l'ex genoano, la palla a rientrare, la deviazione di Pjanic, pallone che arriva a Keita sul lato opposto, Roma in avanti, ora con Digne che prova l'incursione sulla tre quarti, scambia con Nainggolan, ancora Pjanic, Roma che va a ricostruire, ancora adesso sulla sinistra con Keita che appoggia su Digne, colpo di tacco a distrovare il Magliano che si possesse del pallone, il cross sul secondo palo deviato da Casares, Zebra riesce a liberare a fatica, poi il tocco di Mandzukic, ma è ora Manolas che riposta per la Roma, Nainggolan ancora sulla tre quarti, tenta un diagonale che rimane lì, e allora Pjanic sul pallone, tenta la conclusione del bosniaco, troppo centrale però, deviata, ma troppo centrale, allora Buffon riesce a bloccare il pallone, poi passano più di 30 secondi prima che il gioco riprenda, perché il numero uno bianco-nero catechizza a dir poco i suoi difensori, a parte in ritardo anche in questa occasione. Sì, difesa che ha sbandato anche questa volta Pier, a onor del vero, ha raccontato che proprio in avvio di secondo tempo c'è stata anche un'occasione per la Juventus, sì, con una sponda di testa di Chiellini, pallone a Caceres che ha dimostrato di non avere i piedi dell'attaccante, da buona posizione ha messo altissimo, però mi sembra che la Roma stia di nuovo provando, Piera, ad alzare i ritmi. Sì, la Roma sta provando ad alzare i ritmi, ma è un canovaccio di partita che abbiamo visto spesso nella storia, insomma, del nostro campionato. C'è una squadra che sicuramente fin qui ai punti merita, che è la Roma, che ha attaccato di più, ha costruito di più, ha colpito un palo clamoroso, però insomma, sai, che sei in questa situazione di parità, oltretutto comunque con le qualità al di là di tutto che la Juve ha, è chiaro che è una partita ancora da tripla, insomma, a alla Roma manca un po' di concretezza sotto porta. Vedremo adesso i cambi, perché la partita probabilmente se la verrà decisa dai cambi. C'è Cesare, come sta andando? C'è Radio 24, come sta andando? Chiedi se era rigore quello su Florenzi. Nel primo tempo non bello, non perfetto dal punto di vista disciplinare, non bello dal punto di vista tecnico per la squadra arbitrale, insomma è un mezzo disastro. Ecco, Cesare è sempre sfumato nei suoi giudizi. No, però chiedigli se avrebbe dato un rigore o no. Sì. Graziano, ciao, buon pomeriggio. Era rigore o no su Florenzi? Assolutamente era calcio di rigore, come dice Pardo, era rigore. Era rigore, però ci fa notare qualche amico juventino da casa che anche il contatto in mezzo sul traversone tra Chiellini e Dzeko era sospetto. No, non è sospetto, perché Dzeko anticipa l'elevazione e poi non mette le mani su Chiellini. Non ha un braccio un po' largo. L'elevazione è fatto di questo. Se tu anticipi l'elevazione, chiaramente poi c'è un contatto dopo. Chiellini si alza molto dopo. Quindi a mio parere, l'episodio determinante e importante è quello dopo. E lì manca lavoro di squadra. Arbitro di porta Irati, assistente Tonolini. Rizzoli non è nella posizione giusta, perché deve operare da un altro angolo, quindi in diagonale è perfetto Rizzoli. Quindi, hanno mancato la collaborazione i due aiuti del direttore di gara. Quindi il tuo giudizio è che lì c'è un errore. L'altro tema, che è quello su Chiellini, giallo, rosso, arancione, doppia ammonizione. No, attenzione, io devo dirti la sincera verità, che Graziato con un primo intervento su Pjanic, quello assolutamente sì, perché l'intervento da Tergo e arriva al 32esimo e non si può fare questo tipo di intervento, anche perché è stato bravissimo Pjanic a spostare il pallone. Dopodiché c'è un intervento, a mio parere, che non meritava forse il cartellino giallo, perché un po' di vigoria sproporzionata c'è, ma non talmente tanto da giustificare il cartellino giallo. Avrei preferito il provvedimento di ammonizione nel primo caso. Nel primo caso. Grazie, grazie Graziano. Perché guarda, qua che vuole il telefono. Sì. Intanto andiamo subito però all'Olimpico. Dario, c'è stata una grande occasione per la Roma. Sì, 52esimo di gioco, un minuto fa, una grande occasione per la Roma. C'è stato un diagonale di Florenzi che sembrava senza alcuna possibilità. Il pallone che però è arrivato sui piedi di Dzeko, che di sinistra ha calciato dall'altezza del dischetto, leggermente spostato sulla sinistra, provvidenziale riflesso di Buffon. E ora un calcio di punizione, sostanzialmente dalla stessa zona, ma chiaramente fuori dall'area. Siamo intorno ai 20 metri, leggermente spostati sulla sinistra del fronte d'attacco giallo-rosso. Calcio di punizione per la Roma sul pallone. Si avvicina chiaramente Pjanic, gran professore della materia, direi, anche se la punizione, la posizione potrebbe non essere ideale per un sinistro come lui, ma sta partendo e direi che ha tutta l'intenzione di concludere verso la porta. Parte Miralem Pjanic, il gol, la Roma è in vantaggio, la Roma è in vantaggio, splendida punizione di Pjanic, immobile Buffon e la Roma in vantaggio, meritatamente splendida la parabola disegnata dal bosniaco proprio sopra la barriera juventina, niente da fare per Buffon, un gol molto simile a quello segnato da Carlos Tevez appena lo scorso maggio proprio in questo stadio, ma questa è decisamente tutta un'altra partita. Roma in vantaggio quando siamo al 61esimo di gioco. Miralem Pjanic, grazie. Roma Dario, 1, Juventus 0, ed entra ora Morata per Mandzukic. Quindi, al posto di Mandzukic. Morata per Mandzukic, c'è la risposta di Allegri. Pier, notevole il parallelismo fra la punizione di Tevez di un anno fa e questa di Pjanic oggi. Sì, beh, punizione meravigliosa. Pjanic si vede che è in giornata, insomma, lo si era visto già la prima, anche se poi gli era mancata la freddezza, soprattutto 3 minuti fa sulla palla gol della Roma, che ne ha avuto in pratica 3 in questo secondo tempo. Alla terza è passata, mi sembra onestamente che, insomma, questo momento, per quello che si è visto fino adesso, mi sembra un verdetto meritato. Adesso bisognerà capire se in questa situazione di stress evidente la Juve troverà la forza con Morata e con gli altri uomini che ha a disposizione per rimetterla in piedi. Ma fino a questo momento sicuramente il vantaggio è meritato, insomma la Roma ha fatto di più, ha costruito occasioni, anzi fino a questo momento le era mancata la possibilità. Però occhio, perché la Juve riparte subito con una prima occasione, per allora che viene adesso spazzato via dall'area di rigore. C'è anche Ciro Ferrara, non so se vuoi dire qualcosa a Radio 24. Saluti Ciro Ferrara, questo è passato, stanno mettendo le lavagne che tattiche per la serata, insomma, tra poco ovviamente sì, partita di serata lunghissima e prepartita di tutte le altre, però insomma direi mi sembra un verdetto fin qui giusto, insomma. Sì, azione fermata per fuorigioco di Morata, 800 24 00 24. Roberto da Milano. Roberto, innanzitutto complimenti alla trasmissione, buonasera. Grazie. No, io riguardo sul Milan. Sì. Sul centrocampo che non va, ci vuole un playmaker alla fine, insomma. Io vedo su questo Di Gennaro, oppure che fine ha fatto anche Cristante che è da Benfica. E l'ultima cosa, non vorrei, sento voci, no, che adesso la Juve non ha preso Dazle e si avvicina a Montolino, e non vorrei che faccia la fortuna della Juve come ha fatto con Pirlo anni fa, ecco. Non lo so, sta succedendo di tutto, poi ti rispondiamo subito da Dario Ricci. Dario, lì c'è stato il cross di Sturaro deviato con le mani da De Rossi e Rizzoli ha fischiato la punizione esattamente al limite dell'area. Gli juventini stanno protestando sia con l'arbitro mi sa che era rigore e questo sembrava proprio rigore, mi sa che era rigore. Io non so se riusciamo a recuperare Pier Graziano. Guarda, Graziano sta adesso, stava lavorando sull'episodio precedente. Lo sta guardando. Alla lavagna. Gli diamo qualche minuto, non c'è problema. Se no chiamiamo Tiziano Pieri, che prima ci aveva aiutato a decodificare. Sta lavorando adesso. A me sembra, lo dico agli amici da casa, allora, traversone. Sembrerebbe fuori. A me sembra invece a cavallo dell'area di rigore. Noi abbiamo, scusami, faccio la telecronaca di quello che ho qui davanti, che è la telecamera dei 16 metri, quindi... non è la telecamera, insomma, quindi la telecamera isolata. Testimonianza in diretta. Saluto Paolo Liguori che ti ascolta interessatissimo. Ciao Paolo, grazie. Adesso c'è la punizione per la Juve. Sì, allora facciamo così: Olimpico per la punizione alla Juve, poi subito di nuovo qui per raccontare questo episodio. Dario. È Dybala che con Pogba sono sul pallone, praticamente posizione inversa alla punizione di Pjanic, che era però in realtà anche 5-6 metri più distanti dalla linea dell'area di rigore, invece il pallone è proprio praticamente sull'area di rigore, parte Dybala al sinistro e alto sopra la porta difesa da Szczęsny. Buona l'intenzione, meno quindi, l'esecuzione da parte dell'argentino. Nulla di fatto, 21esimo 0-0. Pier, finisci di farci la moviola con le immagini inedite, sì, guarda, che state analizzando. La moviola adesso, aspetta, facciamo una cosa in diretta. Quindi era fuori, ragazzi. Mi dicono di sì. Era fuori. Stanno ancora lavando, ma era fuori. Qualche centimetro, ma era fuori. Milan, sì. Attenzione, intanto c'è un cartellino rosso nella panchina della Juventus. Rubigno. Terzo portiere. C'è stata un'immagine, tra l'altro, che insomma, con De Rossi che si è fatto il segno della croce, perché evidentemente si è reso conto anche lui che lì era veramente questione di millimetri più che di centimetri. Sì, ma siamo veramente ai millimetri. Adesso sto rivedendo anch'io il replay con la telecamera sui 16 metri, stiamo parlando di millimetri. Ma io adesso poi vediamo. Con Cesari, però me l'ha detto, quindi adesso poi sentiremo la sua spiegazione. Sul Milan al volo ti dico che certamente al Milan manca uno come Pirlo, ma manca a tutti, mi sarebbe dire che anche alla Juve fino a questo momento manca Pirlo, cioè le squadre che hanno avuto il privilegio di prendersi il talento di questo ragazzo e che non ce l'hanno più, che sono soprattutto ovviamente Milan e Juve in questi ultimi anni, sicuramente si sentono orfane, ma perché Pirlo è un giocatore straordinario. Non voglio evadere la domanda, è chiaro che il Milan di ieri è un Milan opaco, fragile, con pochissimo in mezzo al campo, con Bertolacci che secondo me è ancora in difficoltà, evidentemente sente un po' il miedo scenico, no? La paura scenica di San Siro e di questo debutto al Milan, con Nocerino che francamente è un ripescaggio che non mi aspettavo, e sicuramente Bonaventura ha fatto meglio di lui quando è entrato, e con De Jong che fa De Jong, quindi lo sappiamo, è un mediano di sostanza, ma non è certamente un giocatore, sì, che un Milan che fa suonare il campanello d'allarme perché mancano 18 ore alla fine del mercato, e quindi non si capisce se ci sia proprio un errore nel progetto, se sia solo, come ha detto Mihajlovic, una questione. Assolutamente. Fammi parlare con Paolo Liguori, però. Ciao Paolo. Ciao direttore. Bene la Roma, poi parleremo bene degli episodi, perché si parlerà bene molto degli episodi. Bene la Roma perché va male la Juve. Bene la Roma e male la Juve, questo è il problema. Magari ci sta sentendo gente che è in macchina in questo momento, non si rende conto di quello che può provare magari un tifoso della Juve o allo stadio o davanti alla televisione, e giocato male, una Juve rassegnata, una Juve che non riesce a ripartire. Ora, dopo aver subito il gol, sta un po' reagendo, però è una Juve ancora legata, imbastita, non è ancora la Juve, insomma, la devono rimettere in piedi, perché si vede che le assenze, i giocatori nuovi non sono ancora integrati. Quindi è bene la Roma, perché sta facendo una partita di ritmo, no? Come aveva chiesto Garcia, all'inizio è andata così, poi gli episodi l'avete già detti, quindi il rigore netto era quello su Florenzi, dopo 40 secondi non hanno dato, qui la punizione e l'ammonizione è sacrosanta per il fallo di mano, però è venuto fuori area, poi c'è stato il palo di Pjanic, altre occasioni della Roma, nessuna della Juve, questo è il problema. Sì, mi sembra che la notizia che esce da oggi, al di là dei punti in classifica, delle statistiche, allargo anche a te Pierre, è che quest'anno abbiamo un campionato, cioè la Juve è veramente lontana. Io lo dicevo domenica scorsa, la traversata del deserto sarà lunga, poi la Juve tornerà, sì, guarda, grandissima, però la buona notizia per la Juve è di questi ultimi minuti, che sta riaccendendo, cioè dopo l'1-0 comunque adesso ha costruito 2-3 situazioni. E quindi può darsi pure che un po' dell'atteggiamento invece opaco che si era visto fin qui era dovuto al fatto che non voleva concedere vantaggi alla Roma e giocasse un po' frenata. Quindi io aspetterei il 90° prima di dare un verdetto definitivo ovviamente a questa partita. Sul discorso di prospettiva invece sono d'accordo, perché insomma la Juve è un mese e mezzo che sappiamo che con grande calma, giustamente senza fretta, cerca questo trequartista, però oggi è arrivata questa mazzata di Draxler e non è che adesso non si possa giocare a pallone senza Draxler, occhio a farci prendere anche dall'eccesso mediatico, però insomma mi sembra un po' corta questa coperta. Le cessioni della Juve erano tutte praticamente, a parte quella di Llorente che non ho capito, ma le altre erano tutte cessioni che ci stavano, Vidal per un discorso economico, gli altri per una scelta di vita, i giocatori che sono stati presi secondo me sono giocatori positivi, però questa Juve è meno forte di quella del 6-2 a Berlino, non ci sono dubbi, è una rosa molto inferiore secondo me in questo momento, quindi se non fanno qualcosa nelle ultime 18 ore rischiano almeno di difficoltà. Non è una questione di rosa, Pierluigi, non è una questione di rosa, questa partita ora può finire pure 3-1 per la Juve, il punto è che con quei giocatori che tenevano un connettivo, un grande connettivo in campo, i Vitali, naturalmente i Tevez, naturalmente Pirlo, questi giocatori, quelli che sono anche in campo adesso, erano più forti. Oggi, per esempio, la cosa che mi impressiona già dalla settimana scorsa e anche oggi è il peggioramento, l'imbolsimento di Pogba. Pogba fa tre passi di grande classe, perché adesso ho fatto adesso è andato vicinissimo, lo raccontiamo al pareggio, sì, con un colpo di testa, palla vicino al palo. C'ha delle doti fisiche eccezionali, ma poi non sa dove mettere questo pallone, non aiuta in una ripartenza, insomma. Pogba era stato descritto l'anno scorso, giocava in un'altra maniera, ma anche gli Sturaro, sì, giocava anche con un reparto a fianco diverso, credo che anche questo faccia la differenza. Il reparto oggi a fianco faceva la differenza anche di questi giocatori e anche dei difensori, lo dico, perché hanno ballato tantissimo, no? Anche se poi sono giocatori di grandissima classe, ma vedi anche adesso un tiro, sì, fanno tirare. Roma vicina al raddoppio, io vi devo fermare perché c'è la pubblicità. Ringrazio Paolo Liguori, grazie a te. Ringrazio anche te Pierluigi, appuntamento ciao, domani dopo il GR delle 14 ciao. Con Dario Ricci subito all'Olimpico dopo la pubblicità. Ci sta tutto, anche il mucchio selvaggio, tutti convocati. Convocati subito all'Olimpico perché la Roma continua ad andare vicino al raddoppio. Dario Ricci. Sì, 73° di gioco, un minuto fa è stato Edin Dzeko ad avere sul suo sinistro la palla buona per chiudere il match, lo ricordiamo, la Roma conduce per 1-0, pallone filtrante all'altezza del dischetto, il sinistro di Dzeko, provvidenziale l'intervento di Chiellini che ha respinto questo tiro a botta sicura. Juventus che pochi istanti prima aveva effettuato la seconda sostituzione, fuori Nick Steiner e dentro Pereira per cercare qualche colpo di ispirazione. Adesso si prova Dybala che allarga sulla sinistra per Evra, il cross al centro, interviene Keita però a liberare e la Roma può ripartire con Nainggolan che mette palla a terra circondato da tre juventini. il sandwich di Pogba ed avrà il calcio di punizione a favore della Roma, che può quindi ridistendersi in avanti. L'ammonizione per il difensore bianconero Evra. 74esimo di gioco, Giovanni, Roma 1 Juventus 0, decide finora la splendida punizione di Miralem Pjanic al 61esimo di gioco. Sì, piccoli tentativi della Juventus di reagire, mi pare. Lo chiediamo a Massimo Giletti. Ciao Massimo. Eccoci. Qualcosina dopo il gol di Pjanic, qualcosina prima, poco. Vabbè, ma questa è purtroppo una squadra che devi aspettare dopo la trasferta di Roma a valutarla, perché ha troppe mancanze a centrocampo importanti. Quindi psicologicamente la vedi andata lì solo per non perdere, adesso che sta perdendo tira fuori un po' qualcosa, insomma. Tanto entra Cuadrado al posto di Padoin. Non so se possa aprire in due la partita per la Juventus Cuadrado, però di sicuro si gioca una carta importante anche a livello di attese. Allegri, è un anno di pazienza, ci vorrà molta pazienza. Ma questa cosa dell'anno di transizione, Massimo, che si è lasciato scappare Bonucci, deve entrare nella testa dei giocatori, ecco. Che transizione, allora tu non giochi più e stai lì. Cioè, oggi ho visto non riuscivano a fare più di 2-3 passaggi a centrocampo, quindi purtroppo mancano 2 titolari ipotetici su 4, su 3, secondo me come gioca a centrocampo non ci sta, purtroppo ci sta, ci manca Morata davanti, mancano troppe cose, capisci? Adesso ho messo Morata, ma riduce l'infortunio da un mese. Per me bisogna avere molta pazienza e aspettare quello che sarà dopo la sosta della nazionale. C'è il rischio però che si convincano un po' i giocatori, tutto l'ambiente, che questo è un anno di transizione. Questo è un rischio che una grande squadra non può correre, però bisogna assolutamente poi ripartire vincendo a prima in casa e sperando di far funzionare Alexandro e Cuadrado, capito? Sì, è presto per fare processi, evidentemente stiamo parlando della seconda giornata di campionato, tra l'altro nemmeno finita, perché poi il calcio regala alle volte sorprese meravigliose. Quello che colpisce di questa partita fin qui è l'impatto visivo di vedere una Juventus che negli ultimi anni non c'eravamo più abituati a vedere, remissiva, in difficoltà, messa sotto dal punto di vista del ritmo, prima ancora che dal punto di vista tecnico. Viene da chiedersi se la società non abbia sottovalutato l'impatto di questo ricambio generazionale. Oggi la notizia ad esempio di Draxler che va al Wolfsburg, Marotta ha detto non l'abbiamo mai trattato, però è la conferma anche che nelle ultime settimane sul mercato c'è stata un po' di confusione. No, diciamo che io si è mossa molto in anticipo, portando a casa gente come Dybala, rubandolo a Inter e Milan. Però quando tu perdi un tutte le squadre hanno un cervello, ecco, la Juve non ce l'ha. Oggi non c'è neanche in campo, quindi la riserva che era Marchisio che sostituiva Pirlo sempre, quindi è molto complicato giocare. Tanto andiamo all'Olimpico, scusa, perché c'è un episodio che potrebbe ulteriormente decidere la partita. Dario. Juventus in 10 al 77esimo di gioco e Rizzoli ha da pochi istanti espulso Evra per già ammonito, ve l'avevamo raccontato in diretta, Giovanni, al 74esimo, ora la seconda ammonizione per un fallo su Iturbe che fresco di ritiro dal mercato, da quello che ci ha detto Sabatini prima del fischio d'inizio, è entrato da appena 3 minuti al posto di Salah. La sostituzione è salutata con entusiasmo dalla curva giallorossa, sia per la prova del Cristiano, sia anche eventualmente probabilmente per la conferma dello stesso Iturbe. Juventus però di fatto in 10 ora per l'espulsione di Evra, proprio ora che Massimiliano Allegri aveva completato le sue 3 sostituzioni nel tentativo di andare alla caccia del pareggio. Quindi 68esimo di gioco, Roma in vantaggio di un gol 1-0 per la rete di Miralem Pjanic e di nuovo ora palla in profondità direttamente sul calcio di punizione per Iago, il cross al centro, il raddoppio, Gesù, il raddoppio, Roma 2, Juventus 0, Edwin Dzeko, 2-0, è stato il cross di Iago Falche, un cross al campanile sul secondo palo, più in alto di tutti, ha saltato Dzeko che ha battuto Buffon e poi è corso sotto la curva sud per ricevere l'abbraccio dei suoi tifosi. La Roma raddoppia, 76esimo di gioco, una vittoria finora targata Bosnia, prima la rete di Pjanic, poi il raddoppio di Edwin Dzeko. E quindi abbiamo visto il raddoppio della Roma, siamo con Massimo Giletti, credo a questo punto sentenza, rivedibile mi sembra Chiellini nel posizionamento su Dzeko. Le partite poi sono fatte anche da questi episodi, a Roma ha dominato la partita, però prima c'è un'espulsione di De Rossi che non è stata fatta, però non è che uno si aggrappa alle decisioni arbitrali su un'espulsione o no, era netta, era una doppia munizione, l'arbitro non ha fatto finta di non vedere che ci fosse fallo, questo è visto ampiamente a Ralenti. La Roma sta meritando, ha giocato meglio, non ci sono alibi quando si perde così, bisogna lavorare in silenzio, sta zitti, lavorare e sperare di trovare un equilibrio. A me quello che disturba molto sono gli atteggiamenti di giocatori come Pogba, che richiama tutti, urla, sbraita, cioè, bisogna essere sereni con umiltà, se perdi l'umiltà non fai nessuna strada nella vita, e se pensi di essere Dio perché solo se tanti hanno offerto 90 milioni in cambio di te stesso non sei più l'uomo che può trascinare. Sì, Pogba deludente, tra i deludenti io i bocciati di oggi aggiungo anche Dybala, Mandzukic, mi sembra che i nuovi non si siano ancora inseriti, anche quelli che in questo momento sono disponibili, non quelli futuribili che dovranno arrivare. Il problema è il centrocampo, tu se non hai il centrocampo, quando ti manca il 50% del centrocampo, il cervello del centrocampo non ce la fai. La Juve è abituata a avere o Marchisio o Pirlo, Pirlo non c'è più. Se non c'è Marchisio non c'è sostituto, perché che dire, si è fatto pure male, è complicata adesso obiettivamente, cioè, nonostante non ho mai visto una Juve così, quindi è rivedibile il minimo, speriamo si riveda in fretta. Non una Juve da scudetto, no. No, quello che abbiamo visto in queste partite assolutamente no, abbiamo 24, però siamo alla seconda di campionato, un campionato dura tante partite, è importante ritrovare una quadratura di gioco che mi sembra sia ormai persa. Il problema forse è questo, cioè Pirlo se n'è andato via, si era chiesto un trequartista importante che sembrava dovesse arrivare, non è arrivato, ecco lì è l'inghippo il problema. Sì, un po' di cortocircuito forse anche tra Allegri e il club, diverse valutazioni sul profilo del centrocampista. Grazie a Massimo Giletti. Arrivederci. Olimpico di Roma, per vedere se c'è una reazione della Juventus. Dario Ricci. Ma Juventus che prova a rimpossessarsi del pallone, ma partita che è veramente difficilissimo. È solo una formula giornalistica che mi sento di utilizzare, provare a riaprire. Si trova adesso Chiellini a portare avanti il pallone della Juventus, che lo ricordiamo è anche in 10 per l'espulsione che abbiamo raccontato in diretta di Evra poco prima del raddoppio di Dzeko. Conquista un pallo laterale la Juventus, Morata appoggia ancora su Chiellini, Pereira scambia il fronte d'attacco e il pallone arriva a Caceres, ora Cuadrado per la prima volta sollecitato dai compagni di reparto in profondità per Pogba, che prova a chiudere il triangolo. Meglio di lui fa Digne, che invece riesce a intercettare e ad appoggiare a De Rossi. Prova ancora Pereira, ma ora la Roma può ripartire ancora facendo perno su Dzeko, che punta la porta avversaria, gli si trappone Bonucci e poi allora Dzeko allarga per Iago Falchi, chiuso però da Morata e ripiegamento e poi da Chiellini che appoggia ancora su Morata, che prova a sua volta a coinvolgere Dybala, ma e sfuma così il contropiede della Roma. Grazie Dario, torniamo da te fra qualche minuto, ne mancano esattamente 7 e mezzo alla fine, più recupero alla fine di questo Roma-Juventus 2-0, gol di Pjanic e Dzeko. Vedremo che cosa accadrà poi nelle prossime ore anche sul mercato, perché evidentemente c'è anche questo tema, c'è chi ci ricorda da casa sulle statistiche dal 2004-2005 la Juve non fa così pochi tiri in porta in una partita, quell'anno scrive un amico, la Juve poi ha vinto lo scudetto, è arrivata prima in classifica. È vero, però questa sembra una Juve profondamente diversa. La Juventus ha bisogno di me, Zlatan, di un grande campione come me. E cazzo guardi. Sì, no, non sto guardando, però la Juventus ha bisogno di tante cose, anche di un numero 10. Io sono contento, Io domani firmo con Juventus insieme a Draxler. No, questa è una notizia, però non è vera, perché Draxler ha firmato tu per il Wolfsburg. Tu sei giornalista, sì. Perché dici questo? No, cazzo, dico questo, è passato il Wolfsburg per 36 milioni di euro, è ufficiale, quindi è ufficiale. Cazzo dici? No, è ufficiale. Io sono molto contento del mio ritorno a Juventus dopo Barcellona, Milan e PSG, ok? Sì, okay. Io sono contento anch'io, però se torni con Draxler non può succedere, perché Draxler è verificata la notizia. Tu parli troppo, sei Facebook. Geloso, parlare meno in radio e televisione. Se tu vuoi qualcosa mi devi venire a me a parlare, ok? Va bene? Sì. Ma tu non capisci italiano. No, io lo capisco l'italiano. Come on, why don't you tell me what you want to know? Sei tu che ti devi rassegnare che non vieni alla Juventus. Tu giornalista devi non vieni sapere alla Juventus. Tutto di me, di Milan, di loro e di PSG. Io ho preso in giro te. Sì? Io ho preso in giro te. Io non vado a Juventus, io vado a Milan. Ma non è possibile neanche il Milan, ne sei certo? Ibrahimovic non sbaglia mai, ok? Io vado a Milan con Jackson Martinez e Condobia. No, va no, bene? Non è possibile. Condobia è all'Inter, Jackson Martinez. Cazzo, guardi. Non c'è niente da guardare. Come traffico, come on, traffico. Come on. Pubblico imbestialito. Tutti convocati. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta. Tutti convocati. Roma che sta dilagando in questo finale, manca poco meno di 4 minuti più recupero e Buffon ha dovuto mettere i pugni su una conclusione ravvicinata. Roma molto vicina al gol del 3-0. Andiamo all'Olimpico, Dario Ricci. Chi è stato Iago, uno dei grandi protagonisti, Iago Falche, di questo pomeriggio, a impegnare ancora una volta Buffon, che come giustamente sottolineavi tu si è opposto con i pugni a questa ennesima conclusione. Ora la Juventus che prova a ripartire, Pereira fa il break e appoggia su Morata, triangolano i due, il cross al centro, il tocco di Dybala, il gol della Juventus. C'è stato un errore di Keita, bravissimo Pereira a recuperare il pallone, a scambiarlo con Morata, il cross al centro, il tocco al centro su cui si è avventato Dybala, che ha battuto Szczęsny, un gol inatteso, imprevisto, ma che sicuramente regala Pepe a questi ultimi 3 minuti più recupero. Juventus che sigla il 2-1 con Dybala. Juventus, lo ricordiamo, è in 10 per l'espulsione di Evra per doppia ammonizione al 77esimo, ma che ora può provare a giocarsi tutto per tutto in questi ultimi 3 minuti più recupero. Ingenua la Roma, ingenuo Keita, uno dei giocatori, sì, più assolutamente, questo pallone, ma anche Dybala abbandonato in mezzo all'area di rigore, tra l'altro posizione regolare di Dybala, questo lo diciamo dopo aver visto il replay, quindi gol convalidato in maniera assolutamente corretta alla Juventus, che ha adesso qualche minuto di speranza di rimettere in piedi una partita che sta perdendo meritatamente. Saluto Xavier Iacobelli, ciao Xavier. Buonasera a voi, buonasera agli amici ascoltatori. Si è riaperta improvvisamente una partita che sembrava sigillata. È così, però devo dirti che vedremo adesso in questi ultimi minuti dell'incontro come andranno le cose, però io sono rimasto impressionato dalla prova di forza della Roma e dalla debolezza della Juventus. Troppo nervosa, inconcludente, arruffona, arraffona, assolutamente inadeguata rispetto ai rivali. Sì, fa specie soprattutto la Juventus. A me sembra che la notizia di questo pomeriggio sia che la Juventus, per carità, ci sono le assenze, c'è il mercato che deve chiudersi, però è davvero lontanissima rispetto alla squadra che abbiamo conosciuto in questi anni. Sono d'accordo con te, è irriconoscibile, peraltro si sapeva e Buffon aveva avvertito con largo anticipo che, stante il profondo rinnovamento, cioè dire rivoluzione operata durante questo mercato, la Juventus avrebbe dovuto soffrire nella fase iniziale della stagione, però non potevamo immaginare in questo modo come è accaduto oggi all'Olimpico. Sì, non so nemmeno se sia una questione di numero 10, cioè evidentemente questa è una squadra che ha bisogno anche di ritrovare gli equilibri, trovare i suoi leader, leader che ha perso, leader intendo anche dal punto di vista emotivo. Sono d'accordo con te, c'è un dato a mio avviso che induce ad alcune considerazioni. L'età media della Juventus, che ha conquistato il quarto titolo consecutivo, era di 29,5 anni. L'operazione è la più vecchia degli ultimi 30 anni. L'operazione svecchiamento ha portato ad un'età media che in questo momento si aggira attorno ai 25,6. Ma non è solo soltanto una questione di numeri, è una questione anche di leader, di personalità. Pirlo, Vidal, Tevez erano certamente alcuni dei punti di riferimento più importanti di questa squadra. Questa sera Buffon ha tenuto a galla la Juventus evitando che il passivo potesse assumere dimensioni più evidenti. Però non può bastare solo Buffon. Sì, Pogba credo da 5 in pagella, prova a fare il leader, prova a fare il numero 10, magari prova anche a sopperire alla mancanza di qualità del resto del centrocampo, non è colpa sua se sta giocando con Sturaro e Padoin, però mi pare dopo la partita con l'Udinese un'altra domenica non eccezionale per il francese, che ha sulle spalle anche quella valutazione lì di 80-100 milioni di euro. Per carità, avrà anche spalle larghe, però solitamente queste sono etichette che pesano. Sono d'accordo con te, anche perché stiamo parlando delle spalle di un ragazzo di 22 anni e che ha compiuto un salto di qualità notevole nell'ultima stagione ed è chiamato a farne uno altrettanto importante proprio per l'assunzione di responsabilità a cui facevi riferimento, non soltanto per il numero della maglia che indossa, ma proprio per una leadership che deve assumere in questa stagione così importante. Questa è tutta un'altra Juventus, ora vedremo che cosa accadrà in questi ultimi minuti, ma indipendentemente dal risultato finale, quando anche ci dovesse essere anche un pareggio in extremis nei minuti di recupero, è la prova complessiva della squadra di Allegri che ha sconcertato, e per contro c'è stata veramente una grande Roma, che a mio avviso è soltanto all'inizio di un progresso nel gioco, nella tenuta, nell'inserimento dei nuovi. Digne ad esempio ha sostenuto due allenamenti con i nuovi compagni prima di essere mandato in campo oggi, eppure è vero, stiamo parlando del nazionale francese, ha risposto molto positivamente, così come lo stesso Iturbe, al quale ha fatto molto bene la retromarcia sul mercato operata da Sabatini, sembrava che dovesse trasferirsi al Genoa, è rimasto, è entrato, ha determinato subito l'espulsione di Evra e ha dato un contributo importante all'azione della Roma. Sì, non abbiamo visto Totti e dobbiamo abituarci sempre più quest'anno a questa nuova versione della Roma senza il suo capitano. Non abbiamo visto Gervinho, che dopo le polemiche e delusioni è il giocatore di fatto che ha pagato con l'esclusione. Andiamo però all'Olimpico perché c'è un angolo per la Juventus. C'è Dario, un angolo per la Juventus che va vicinissima al pareggio. Dybala, il colpo di testa di un giocatore juventino, mi è sembrato Caceres, e il miracolo di Szczęsny, il miracolo di Szczęsny, e la palla che ancora il calcio d'angolo, ancora angolo, libera questa volta Keita, colpo di testa di Pereira, mischia in area Dario De Rossi, sarà rimessa dal fondo per la Roma e Juventus, vicinissima al pareggio in Roma, che dopo una partita splendida, intensa, e una grande prestazione, deve ringraziare la malona di Szczęsny che ha tolto dall'angolino alto questo pallone che era rimbalzato proprio di fronte a lui. Bravissimo il portiere ex Arsenal che ha salvato il risultato, e ora terzo e ultimo cambio per la Roma, che va a uscire Diego e al suo posto il Barbo per l'attaccante Bosnia, con l'ovazione di tutto l'Olimpico. Veramente una prestazione superba quella del centravanti ex Manchester City, che prima ha saputo giocare di sponda, ha saputo aiutare in copertura e poi è riuscito a chiudere di fatto il match, o almeno a dare il doppio vantaggio, sì, alla Roma, a tentare prima almeno di sigillarlo. Esattamente. Dario, resta lì perché credo manchi in una quarantina di secondi, non di più, un flash con Xavier Iacobelli. Notizia, la Roma ha anche un portiere forte quest'anno. Vabbè, è un grande portiere. Questo è un grande portiere. Il titolare della nazionale polacca, e anche all'Arsenal, sebbene l'ultima stagione sia stata in chiaroscuro, aveva dimostrato di che pasta fosse fatto, compiere una parata di questa dimensione, di questa portata allo scadere dell'incontro, significa essere assolutamente in partita, significa essere veramente un grande portiere, perché l'intervento è stato difficilissimo. Sì, tra l'altro dopo una partita in cui Szczęsny non è stato impegnatissimo, e quindi a maggior ragione parata complicata. Ti chiedo ancora un minuto di pazienza, direttore. Prego. Andiamo a vivere gli ultimi 30 secondi all'Olimpico da Dario Ricci. Dario, la sponda di Pogba per Morata, che dall'area piccola prova a deviare di destro, pallone che finisce però sopra la traversa, la Juventus la porta della disperazione, solo con quella è riuscita a creare due occasioni, la prima nettissima con la paratissima di Szczęsny e questa seconda, la sponda di Pogba, la zampata sotto misura di Morata, il pallone che però ha finito alto sulla traversa, è ora rimessa da sponda ancora con il portiere ex Arsenal Olimpico che aspetta solo il fischio finale di Rizzoli, mancheranno poco più di 10 secondi, il rinvio di Szczęsny, Rizzoli che guarda l'orologio e triplice fischio e sancisce la vittoria della Roma, Roma batte Juventus 2-1, i gol tutti nella ripresa al 61esimo, Pjanic al 78esimo, il raddoppio giallorosso di Dzeko dopo l'espulsione dello juventino Evra all'87esimo, la rete della Juventus con Paolo Dybala. Grazie Dario, buon lavoro per il post partita, a chiudere con Xavier Iacobelli. Chi ne approfitta stasera? L'Inter, il Napoli? Perché evidentemente da oggi si apre un campionato che non immaginavamo. Assolutamente sì. Vedremo, è molto importante l'impegno sia dell'Inter sia del Napoli, ferme restando le difficoltà del Milan che comunque è riuscito a battere l'Empoli. Occhio al Sassuolo, perché queste due partite della formazione di Francesco hanno confermato come la formazione emiliana non sia affatto una meteora. Gioca a memoria e secondo me il ruolo di outsider le si attaglia sempre meglio. Sì, magari non per lo scudetto, no, ma per finire il campionato nella metà sinistra della classifica. Grazie Xavier Iacobelli, grazie direttore. Grazie a voi, buona serata. Grazie a Xavier Iacobelli, direi che abbiamo finito. Questa sera c'è tutto il resto del programma, lo abbiamo accennato prima, quindi grande attenzione a Torino-Fiorentina, Atalanta-Frosinone, Carpi-Inter, Chievo-Lazio, Genoa-Verona, Napoli-Sandoria e Udinese-Palermo. C'è chi si deve riscattare come il Napoli, c'è chi qua, deve confermarsi come l'Inter. Buonasera, non mi avete vogliamo fare la schedina, vogliamo fare la schedina. E voglio fare appunto il pronostico e sono orgoglioso di questo. Volevo fare il pronostico di Roma-Juventus. No, non è più possibile. Secondo me vince la Roma. Ma è finita. E mi sbilancio, io mi sbilancio e dico secondo me vince nettamente, ma poi alla fine accorcia la Juventus. Quindi 2-1. Certo, lei è un po' un cialtrone, glielo voglio dire. Hanno appena giocato, è finita 2-1. Ringrazio Serse Cosmi, Andro Merku. Io c'ho ancora il fuso orario. No, è così, è già finita. Ringrazio anche Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Gianmarco Ferronato e Pietro Laccorte in regia. Domani dopo le 14 torna tutti convocati, grazie. Ma questa gara mi ha fatto capire che quest'anno vinceremo lo scudetto. Io sono sicuro di questo perché ho una squadra fortissima, siamo più forti che la Juventus e lo dimostreremo in campo. Chi sta parlando?